chi è? Oh, Gianni, buonasera. Vabbè, Antone, Emi, tra un po' mi preparo per il grande freddo notturno, e tu già? Perché ci siamo? Stanotte, alle 11:30, stanotte. Pagappa. Vabbè, almeno qualche cosa si fa. E alla fine? Guarda, c'ho un incazzo oggi, guarda, che manco un'idea ne hai, mamma mia quanto sto resistendo. E non mi conosco, prima o poi scoppio, comunque. Resistiamo ancora. E tu già? Tutto a posto, un pochettino senza sentirti. Stai facendo forse all'apparato? No, sto entrando. C'ero anche l'altro giorno. Con Giulio, eccetera, eccetera. Gigi, tutti quelli lì. C'era una bella ruota. No, non lo faccio per forfè, io accendo, se non sento nessuno, poi alla fine mi stufo e mi guardo il televisore, capito? Ma diciamo che mi sto cominciando a rilassare, dai, dopo che sono tornato dal lavoro. Ah, è quello già, è vero, adesso vabbè, adesso farai giustamente domani. Domani è domenica, Uria. È lunedì, no, sì, lunedì lavori, sì. Veramente è mezzamattinato tutto il giorno sino alle 7, alle 8. Cosa dovrei fare mezza giornata lunedì? Di solito il mio riposo è lunedì sera. Però non lo so perché c'è l'inventario e adesso bisogna vedere se lavoro o no. Bel problemino, sembra così l'inventario, ci sono passato anch'io. Prende un bel po' di tempo tra una cosa e l'altra. Dove la passi tra amici? Noi andiamo lì in Piazza d'Italia. Come ogni anno, lo passiamo lì il Capodanno, dai, un po' in mezzo alla gente. E tu? Io sono con amici, tutti in Greffa, siamo in una campagna vicino a Usilo, stiamo lì, portiamo il karaoke, cantiamo, facciamo come l'anno scorso, siamo divertiti tantissimo. È buono anche quello, sì, no, noi stiamo bene, siamo trovati bene lì a Capodanno. C'è un bel po' di gente, poi c'è lì mio fratello che sta lavorando in via Roma in un bar, ci facciamo una scappatina anche lì, dai, già lo passiamo anche bene quest'anno con ogni anno, dai, sempre in mezzo alla gente, un po' di festa, una cosa e l'altra, già te lo passi in allegria, no, ma già è bello anche in campagna, quello, quando c'hai le amicizie giuste già ti diverti, è già una buona cosa anche quello. E siamo anche tante persone, siamo moltissimi, quindi dovremmo divertirci, se come l'anno scorso ci siamo divertiti. Buono, buono, allora, dunque tu porti tutta l'attrezzatura per il karaoke? Perfetto, va benissimo. E oggi come ha trascorso la giornata? E lavorando, Antone, lavorando. E poi sono tornato a casa, mi sono riposato un po' e poi sono ritornato al lavoro. E adesso lo stesso, sono a casa, non ho voglia di uscire perché sono molto stanco. E mi sto rilassando 5 minuti adesso perché stavo lavorando sino adesso. L'importante è quello, mi ha fatto un giretto così, adesso tra un'oretta, da una cosa alta, mi preparo veloce e andiamo a divertirci, che male non si sta, devo dire, perché vedi, ti accorgi veramente purtroppo la gioventù bruciata di questa nuova epoca, che fa veramente impressione. Guarda, è incredibile che la maggior parte sono ragazzini di 16 anni, guarda, è raro che trovi uno di 18 anni, ma ti dico, devi vedere come si fanno male, guarda che è una cosa impressionante. È la cosa più strana, porca miseria, come è possibile che i genitori non se ne accorgano, guarda, e guarda, se non lo vedi non ci credi, guarda, veramente assurda la cosa. Tutti cotti, no? No, se voi state cotti già sarebbe stata già una cosa positiva. Cotti no, anfetamine, tirano, fumano, che è una cosa impressionante. Questa droga sintetica che ho visto, che sono delle piccole pietroline, non avevo mai visto la verità, delle piccole pietroline bianche, biancate con dei piccoli rilievi brillanti, giustamente cosa chimica purtroppo, in pietre, o la masticano o la maciullano e se la tirano, ma devi vedere come si fanno, guarda, io l'ho visto in diretta davanti a me, senza nessun problema, non ho chiesto se ne volevano, vai e allontanati. Tranquillamente sono rotolato questi 10 euro, hanno tirato, ma devi vedere come si fanno, e poi per chiudere il belletto un bel cannone di erba, ma di quelli impressionanti, e poi entrano in discoteca e si divertono, per modo di dire si divertono, ma ripeto, anche ragazze, la maggior parte, anzi non ragazze, bambini di 16 anni, completamente in merda, che è la parola più giusta, guarda, impressionante, non se ne salva uno, guarda, dirne uno o una, guarda, non ci credevo. Ma poi, mamma mia, che cos'è? Guarda, io stasera mi ha telefonato un mio amico dal continente, che è di qua, però lavora come carabiniere in Fui, e mi ha detto che quando la figlia vuole andare in discoteca ogni volta pensa a queste cose, perché lui ha fatto servizio in mezzo alla gente, cose in discoteca, proprio perché è stato nella narcotici. E mi ha detto, guarda già, ogni volta che mia figlia invece va in discoteca, pensa sempre a quello che vedo. Infatti, ma lo sai cos'è il discorso? Non so se le hai mai viste, incominciano a smascellare, ce l'hai presente? Proprio nel vero senso della parola. La bocca sembra, la mascella sembra che se ne vada per i fatti suoi, non riescono a connettere, proprio questa bocca incomincia a dire, parlano sì, ma in modo disconnesso, e poi si muove in un modo talmente anormale, perché la parola più giusta, anormale, e ripeto, c'hanno 16 anni, ma dico che ne mangio di queste cose a go-go. Io non penso, ma porca miseria, ma com'è possibile che un genitore non si accorga che il figlio è in quelle condizioni? E poi giustamente a 16 anni mandarli in discoteca già è una cosa un pochettino più, ti fa un po' pensare, no? Per dire, non lo so, caro, ti giuro, adesso giustamente mia figlia si dice non ce la mando. Siamo in discoteca di quelle più tranquille, dove ci sono gente, persone adulte, dove bene o male vedi che non è giro di queste cose, buono, ma lì è pauroso. Io non è che sto puntando a discoteca di usi, ma la maggior parte delle discoteche così controlli, purtroppo non ce ne sono e nessuno ti controlla. Se bene o male ti metti a spacciare ti buttano fuori, quello sì, ma giustamente ti butta fuori, non possono impedirti di fare l'uso di queste droghe. Ma dico che si trasformano, guarda, tu li guardi, sono dei, c'è ancora, ci vuole anche il fazzoletto per pulirli molto dal naso, e questi si fanno veramente male, guarda, non lo so, mi sa che se no ti prendo la telecamera e li filmo, guarda, te li faccio vedere, perché fanno veramente paura. Poi, io mi ricordo che lì proprio, in quella discoteca dove stai andando tu, una volta con un amico siamo andati in bagno, e abbiamo trovato due tipe praticamente in terra, in cose, in overdose, e le abbiamo massaggiate, meno male che questo amico faceva servizio ambulanza con me, le abbiamo massaggiate e chiamato il 118 perché erano in overdose di brutto. Poi siamo usciti fuori e abbiamo visto ballando questi altri cinesi, perché questi erano cinesi tutti e due, questi altri cinesi tutti con gli occhi in gloria, si vedeva a 100 km di distanza che si erano fatti. Guarda, tutti messi male, una greffa, sono state 5-6 persone, tutti con gli occhi in gloria, ballavano, tanto per dire, non seguivano la musica, tutti quanti sconnessi ballando e facendo, per vedere che rock. No, ripeto, fortunatamente gente che ci buca non li ho visto lì, mai non li ho mai visto, la verità, ma a quanto pare sono l'ultima moda di questo, di adesso. Poi adesso stanno vendendo questa specie di bomboletta, una specie di contenitore, me l'ha spiegata questa persona che purtroppo ne fa uso. E cosa fa? Lui compra le bombolette spray, sai, quelle, la lacca, ecco per intenderci, spruzzi questa lacca all'interno di questo contenitore e separa il prodotto dal propilene, quel gas che serve per metterlo sotto pressione, no? Dunque divide due componenti. Cosa fa? E si aspira il propilene, e dunque l'effetto qual è? Quei 30 secondi ci ti fa uscire fuori di testa, a quanto pare la nuova moda, ma dimmi tu dove cacchio uno arriva con la testa, ma non è solo lui, tanta altra gente che tu manco un'idea ne hai, ti giuro, alla fine ci pensi, ah, perché devo mandare mia figlia con la paura, perché sai benissimo che i giovani sai, vogliono provare nuove esperienze, ci siamo passati anche noi per dire, e ti attirano un po' queste cose, sai, per provare, tanto per provare. po' com'è l'effetto, ma io non ce la manderei mai mia figlia, porca miseria, ma non perché non la voglio far uscire, è perché non voglio che cada in queste cose, porca miseria, quello è il problema. E poi me ne accorgo benissimo io se ha fumato, per dire, ha fatto qualcos'altro che giustamente non deve fare. Io almeno un minimo di responsabilità ce l'ho, e guai se non ce l'ho, mi taglierei le mani. Ma la maggior parte sembrano che i genitori se ne freghino, guarda, vedi un po' tu. È capace che tornano tardi a casa, Antone, anche se hanno 16 anni, in effetti 16 anni è molto, diciamo, è troppo presto per mandarli in discoteca, eccetera, eccetera. Ma magari tornano tardi, i genitori sono addormentati, non si accorgono di nulla, loro si mettono a letto e via, l'indomani magari già è passato, quindi non si rendono conto di nulla. Però bisogna avere gli occhi aperti con i figli. Io tante volte con mia moglie, sai cosa facevamo? Quando Manuela usciva, di nascosto andavamo a controllare a vedere dove andava, lo sai. Hai fatto il tuo dovere, hai fatto il dovere di genitore, ma scherzando, ti ripeto, guarda, tu ti sembra che tuo figlio sia il più bravo del mondo, sono pienamente d'accordo. Meno male, tutti le abbiamo fatte le cazzate, ma fino a un certo punto, quelle sono cazzate un pochettino più grave, e farò anch'io più avanti con mia figlia, non è che lo faccio così perché non mi fido, io giustamente la fiducia gliela do, però voglio vedere un po' come si comporta, non voglio che pure domani si trovi male e io abbia sensi di colpa perché non sono stato attento o me ne sono fregato. Dunque ripeto, ci ho lavorato anni e ne ho visto di cose. Adesso per farti un esempio, parlando del 2000, ecco 12 anni fa, ecco le persone dell'epoca non ce ne sono più che si facevano male, ma molto più male di adesso. Adesso sono ragazzini, prima meno male ti facevi male a 20 anni, 22 anni la gente si faceva una merda, perché è la parola più giusta. Adesso no, adesso l'età è diminuita, diminuita 16 anni e la maggior parte sono ragazze. Sono ragazzine già, ti giuro, è una cosa impressionante. Allucinante, va. Sentire queste cose non è molto piacevole, perché specialmente chi ha figli mi dà da pensare certe cose. Ma io, diciamo che una volta ci siamo incrociati con Manuela, lei era con la Grefa e cose, siamo andati ai giardini pubblici che noi avevamo vietato di andare, non volevamo andarci. E ci è rimasta secca quando ci ha visto, capito? Ha detto Manuela, ma noi non ne avevamo parlato chiaro e tondo, lì non vogliamo andarci, perché è un posto troppo appartato, non si sa mai quello che succede. E dal giorno non c'è più tornata, perché poi l'abbiamo bella tantarata. Beh, quello sì, ma guarda già, guarda, è arrivato a un certo punto, un posto vale l'altro, guarda, ci vuole 5 minuti a tirarti, ho fatto un cannone, vabbè, lascia perdere le canne, non sono gravi quanto a quelle droghe sintetiche, a me non ci metto 2 minuti, neanche mi, loro di spalle loro si stirano e loro sono tranquilli e pacifici, ma poi vedere, tanto guarda, c'era questa ragazza, la verità di Ussi, che la vedo in giro con la sua grefetta, giustamente, ma conoscendo la madre, mi sembrava una brava ragazza, una persona tranquillissima. Quando era martedì, sì, a Natale, stavo lavorando, ma tu devi vederla già, guarda, impressionante. E oltretutto, la vedevo molto preoccupata, ma cosa c'è, gli ho fatto, come è successo? C'è questo mio amico, dice, ha preso questa pastiglia, è uscito fuori, e lo stiamo cercando, è sparito nel nulla, dunque cercando tutto il parcheggio, a vedere se si fosse irroccato, dice che stava volando questa, adesso sono preoccupati, oltretutto fatti, però questi sono riusciti a tenersi bene la sventola, no, questo ci è uscito fuori, io l'ho visto che è partito da solo, ma di vedere la bocca come andava, no, non si capiva più niente, era uno zombie. Due ore dopo è tornato, chissà che fine aveva fatto, ma di vedere in che condizioni era, e questo uscendoci di testa, chissà il padre se lo trova, cosa le fa, cosa non le fa. Ripeto, già 16 anni hanno questi ragazzi, e tu li vedi in giro che sembravano bravi ragazzi, poi vanno lì in questi posti e si fanno una merda. Capito così il discorso? Basta che vadano i tuoi figli o mia figlia con una persona sbagliata, boh, guarda, incominciano a mettersi un sacco di problemi che sono, e non da poco questi problemi. Antone, penso che sia una questione caratteriale, perché a me, io ho frequentato in Piazza d'Italia e quando frequentavo io c'erano giri di tutto, di fumo, di cose, di acidi, E a me una volta uno si è fermato e mi ha detto: ce lo facciamo un acido insieme, anzi una tippa. Mi ha detto: ce lo facciamo un acido insieme e poi facciamo l'amore. E io gli ho detto di no, che non mi andava. E niente, quando uno sa del suo fatto, io non penso che sia la sola amicizia, perché tu c'hai un cervello per ragionare. E se decidi di non farlo una cosa, non la fai. Io ci sono stato in piazza, ti ripeto, quando mi dicevo vuoi questo no, vuoi quest'altro no, e vedevo invece gente che magari prendeva l'acido e si dà tutta cura di gamba. Infatti, ma poi delle persone che giustamente quando uno è ragazzo, lo sai bene, siamo passati anche noi, ti sembra tutto normale, sì, proviamo, ma chi se ne frega, io se ne provo un pezzettino, sai, non ti metti tutte le paranoie che noi ci mettiamo adesso, perché abbiamo un pochettino, un più di sale e zucca in testa, è tutto lì, ci vuole poco, guarda, a coinvolgere le persone, a illudere tutto quanto, ci vuole veramente poco. E dunque quello, sì, lui una persona può dare un sacco di educatori, ripeto, questa la madre, io la conosco, per una cosa, una brava madre, lavora per i figli, tutto quanto, vabbè, divorziata per il marito, un feto di cacca, comunque fatto sta, si ha sempre da fare per i figli, i figli sempre ben vestiti, non li fa mancare mai niente, ecco, non è neanche manco giratore sa mamma, buonarre, no? E... però lei ma così l'immagina, brava brava, di buona famiglia, e la figlia si fa una merda, perché è la parola più giusta, scusando la parola, ma si fa, ti giuro, veramente male, perché non è poco le schifette che prendo, neppure Vittorio, puoi essere brava quanto vuoi, esci con qualche compagnia, sicura la madre che sono brave persone, poi alla fin fine sotto sotto usano queste sostanze, che poi una piccola pietrolina, ma ti giuro sembra proprio una pietra bianca, a 30 euro viene. Ma per mandarli senza soldi, arrivato a un certo punto, è un minimo di sicurezza ce li hai, arrivato a un certo punto, sembra così, questa droga costa 30 euro, e lo sballo ti dura, non so, mi sa, 12 ore, una cosa del genere, che non è poco, ma ripeto, devi vederle come, cazzo, come parlano, come muovo la bocca, e guarda, fa paura, cazzo, manco gli zombie così, non so se ne hai mai visto tu di queste scene. Dunque mi fa pensare, perché mi diceva mia figlia quando ha 16 anni, no, 16 anni sta a casa, vado in giro con qualche amica, a tale ora rientri, mandare i locali notturni ne passeranno di anni, in modo che mi dia un pochettino più di sicurezza e un pochettino più di fiducia, se no da casa non si muove, ma giustamente lo faccio per il suo bene, tutto lì, non per impedirgli di uscire e di richiudersi in casa, perché tanto guarda, ci vuole veramente poco per trovarti in quelle condizioni lì. Antonio, io penso che uno si possa divertire senza fare queste cose. Se uno ha lo spirito di divertirsi, lo fa senza... Ah, se ti bevi un bicchierino, una cosa, per essere un po' allegro, che ti viene nuda, ma queste cose fanno proprio male, si rovinano con le proprie mani. E infatti è quello, per un bicchierino succede niente, ma bevitene due, non guidi, la macchina rimane a casa, bevitene anche tre, va anche bene, porca miseria, un minimo ti può lasciare andare, io sono pienamente d'accordo, ma quelle cose no, già, guarda, nel modo più assoluto, ripeto, guarda, se ti giuro, guarda, non ti prendo la telecamera, se becco, che poi non è neanche giusto, porca miseria, ma comunque per farti vedere un po' com'era, perché ti giuro, se tu non lo vedi non ci credi, guarda, è una cosa impressionante, è un esempio stupido, chissà chi ha breccato Gianni Capri 2, diciamo, lui è una persona che ne fa uso, vero già? Buonasera signori, semplicemente mi muovo come mi scoppetta del faccio uso, diciamo, giornaliero anche a me. Sì, sì, così è. Ognuno c'è i suoi vizietti, comunque buonasera e ben sentito. Avanti, doppio numero per i saluti a Capri 2 che oggi, anche oggi è a voce alta. Buonasera, porta la maschera che qua mi ha spaccato anche il, come si chiama? Ma è il radiatore del baracchino. Gianni Comini, che così troppo voi, dopo lo padrino, che è che devo il microfono. Mi scende i vari, ma... Thank you. capisce niente. Sì, aspetta che lo mettiamo proprio al limite, se cucca una bomba qua il polaro. Qua è chiaro. Su 5. Sta male il peggio. Ho tutto da basso. E lì che Claudio ti fa che bello, si ritende gagliato, a bacia, adesso già va bene. Ciao Luca, buonasera, mi hai sentito, avanti. E ciao, dove va? Ha fatto da tanto a niente. Vediamo un po', prova Gianni. Che l'acqua la mia lo tocca dare qualche modo, so se c'ho il video del cazzo che con lo straccio. San mano, san maneta, ce li ho le manette ancora qui, me le leggo. Ok. Guardate adesso io, qual è la voce mia che è troppo alta, di che microfono distantevi, ditemi se va bene. Benissimo, bene, un tocco in nuda, vai benissimo. Andiamo a legare, Brugui. No, lo sai con le ci sono questi che non finiscono più facendo la strada, non con le. E io le finestre sono chiuse, lei ogni tanto apre quella della scala, ho detto non è che l'aspetta quando c'era la mola, sì, allora con la pacca quei due le stacca tutti i PL, le leva tutti gli apparati e si mette a pulire, lì tocca il potenziometro, hai capito? E perché qualcuno lo si capiva la viuso, le vai a buttare la dopo e mette in lotta, va bene. Ok, riprendi già l'ido più lungo. Perché devi usare il pennellino, buonasera, pennellino, così non muovi nulla, se tu usi lo straccio per forza muovi tutto, usa il pennellino come faccio io non si muove nulla. Sì, già, sono uno di bibonemi, a te io ho comprato un set di pennelli, ho comprato l'olio per passare quella vetrina che c'è, che lo applico al braccio, a te non se ne trova uno in garage già di pennello, un set ne ho comprato, mi sa che grave c'è un appiso. Se no già li compro lunedì di nuovo e prendo la po', no col pennellino forse hai ragione già, ma poi sono questi con questa mola si mettono a tagliare e fanno a polvere in tutti i mobili ce n'è, ogni giorno li sta pulendo, ho detto aperta, sì, allora te l'ho anche negli apparati, beh, magari non c'è nulla ma io sono un pignolo, riprendi a me. E invece hanno chiamato al telefono. Della concessione non la sapete se è aumentata. No, scusate, ero in bagno che stavo cambiando l'acqua di olive. No, dovrebbe essere sempre 12 euro. Ho compilato il conto corrente, però non ci ho messo cifra. Poi mi informerò bene, guarderò su internet, se no paghiamo 12, poi manderanno il resto a pagare, non lo so, io l'ho compilato senza cifra, pensavo che sia 12. Tanto c'è tutto il mese sino a gennaio, giusto, dal 1° gennaio sino al 30, e vabbè. Una cosa l'altra, ho pagato sempre il 15, sì, quest'anno tocca i 12 euro, già va bene. No, sempre 12, ancora, da quando non hai percutato non è che pagavi 15. No, sempre 12 sto dicendo, no, io il 15 nel senso, intendevo il 15 di ogni mese l'ho pagato, però ho pagato sempre 12 euro, tutto lì. No, i bollettini ce li ho, e anche un bel po' quello che avevo fatto per la manifestazione che è stata bellissima. Volevo dire Gianni, doppio room, non si è avuto nessuna notizia per questo fatto qua? Ma io mi sono visto ieri e mi ha detto che lui, vabbè dai, ne parliamo al telefono. Ah vabbè, d'accordo. Comunque si dovrebbe fare, dai. Ah, sono contento, i feremo su. Non gli do sora, va, il saggio di Lunaro, non gli do sora. Lui ha detto così, poi ha detto che il gazebo in Pisa d'Italia il giorno 7 c'è. 7? Il 7? Ah, va bene, e vieni per i soldi, giustamente, che li mettiamo. Cioè il 6, non il 7, scusa. Ah, il 6. Allora dimmi quant'è a testa, giustamente, che vuole partecipare. Io ci sono. Quello che già io gli do direttamente a te e poi tu vai a lui, senza nessun problema. Io ci sto. Dammi ulteriori informazioni, se hai qualcosa in più, quando bisogna darle, a chi bisogna darle, non c'è problema. Io sono disponibilissimo. Paga. Ma noi cosa dobbiamo organizzare? Noi se facciamo tutto lui. Se c'è da pagare, paghiamo e buonanotte, non c'è problema. Comunque si dovrebbe fare, dai. Ah, speriamo, da allora poche parole tra da una settimana, me la reggo, benissimo. Ascolta, che giorno capita, sì, di sabato o domenica, scusami perché non me ne ricordo. Domenica. Ah, domenica, è perfetto, va benissimo, fa la cortesia, mandami un messaggio, quello che ti pare, fa la cortesia, tienimi informato, così il minimo do anche io la mia partecipazione, va bene, a posto, avanti Luca, speriamo che lo stia mangiando, gatto. Allora, attimino, sono formato il computer, l'ultimo non andava più, e sono stato tutti i programmi, l'unico programma che mi manca è Messenger, e non lo fa caricare, adesso provo un ausilio. Ascolta, ma parla perché hanno detto di nuovo potente come prima, sì. Come, scusa? Di nuovo lì hai cambiato apparato perché sei di nuovo forte come i vecchi tempi. No, non so come anch'io questo qua, no. È una bella storia. Avanti Gianni. Ok, perfetto. Dimmi se concludo invece per l'apparato ancora. Sì, ho chiamato e diciamo che c'è altre cose, ecco, e dunque devo andare lì, adesso vediamo, ora lunedì, metto lunedì, ma non so se ce la faccio lunedì, adesso vediamo, lunedì oppure entro la prossima settimana, dai, nel mese di gennaio, la prima settimana di gennaio, mi devo avvicinare e via, un altro apparato, che vedo che c'è un'altra tipologia di apparato, che va bene per il mio scopo, di avvicinarmi senza nessun problema, di chiamarlo che lui già è a casa. Sì, un'altra cosa, la verità, non quello, però sono contento ugualmente, vado direttamente, guardo e valuto un po' la situazione. Che vittorio? No, perché nell'altro era un affare, un affarone, anzi, pensavo che avevi già combinato, un affarone l'altro. Sì, quello è pienamente d'accordo, però guarda, il primo modo di vedere già, per l'uso che ne faccio, sinceramente, il primo modo di vedere con tutti i buoni consigli che mi hanno dato, assolutamente concordo, però il mio modo di uso ne faccio, mi va bene per il ricevitore, me ne frega niente, poi già, questi apparati disturbano, io non voglio rompere le palle a nessuno, guarda, sono tranquillo e pacifico così, non ho niente con nessuno e tantomeno ne voglio vedere, specialmente nel baracchino. Io quando mudo voglio che mi sentano e non rompere le palle. Boh, io sono la persona più tranquilla del mondo dell'apparato, poi la vita quotidiana è tutto un altro discorso. Tutto lì. Ripeto, per il mio modo di usarlo, io personalmente mi va bene un ricevitore, perché no, è abbastanza carino da vedere, funzionale. Io sono contentissimo, tanto devo solamente fare radioascolto. Poi, per la 27, ripeto, ho il Galaxy, dalla 44 e il 68, a me va più che bene, guarda. Poi per la potenza che c'è, questa via spende un sacco di soldi. Infatti no, come vuoi, io anzi ero contento che tu usavi un'apparecchiatura così. Ok, no, niente, la 44 comunque non ho ricercato quell'apparecchio, io ne ho uno però non funziona di la 44, ma non mi interessava neanche metterne a posto perché ne ho tanti. Ok, doppio room, cosa si dice di bello? Che avete prezzi buoni alla Conor già, come per esempio Anguille, cosa dici? Ma lavora la Conad. Non lavori alla Conad. No, negativo. Che lavora la Sisa. Allora sì, io ho convinto già che lavora per la Conad, basta. Ma io siccome c'è stato oggi era il compleanno, era. Hai capito? Stavo un po' decidendo per le ultime volte dell'anno, per non stare sempre cucinando cane, proprio le piacevo le anguille. Però adesso il cammino non c'è più, però in qualche modo riesco a farle fare, capito, da qualche modo lo troviamo, però pensavo che al supermercato si poteva, non so magari quanto sono, se si può risparmiare qualcosa. Non lo so già, perché sinceramente non lo so quanto costa, non ho chiesto perché non ne compro mai anguille, dico la verità, non mi attirano più di tanto. No, io solo le compro in queste occasioni, mi già capito, non è che noi, queste occasioni giusto per le feste, ok, ma faccio un giro, e con le cucinarle, madonna, se non le facciamo fritte, ma a rosso non mi sembrano più indicate, vediamo di organizzare, perché in fondo Puglia, lo sai cos'è? Se ci mettiamo a farle, lì bisogna organizzare poi per latte e carne, non le cucini per un figlio, perché ci rimane l'odore. E capito, in qualche modo mi arrangerò, a meno che non le cucini da, nel cortile da poco e poi le saliamo in macchina immediatamente, dato la strada c'è cioè transitabile rispetto di casa. Ok, perfetto, a tu le riprendi. Io comunque sono buono ai linguini arrosto, vai tranquillo, già è tutta un'altra storia, anche il fritto è uguale, però arrosto è la morte sua, ma giustamente fa un piccolo barbecue portatile, se non vuoi lasciare l'odore in casa e già fanno abbastanza fretta a cucinare, non è come la carne, dunque il pesce va cotto al punto giusto, né troppo né molto, dunque si fa abbastanza in fretta, Puglia, è così, eh. E tu già invece una bella passata di carne, no? Carne e pesce. Io no, purtroppo sono stato vegetariano, dunque né uno né l'altro. Ah, ecco, ti stai disintossicando, ma sono carne, c'è una cosa che si cae il suo corpo. No, più, adesso sono 7 mesi senza mangiare carne e pesce, ma per il momento sono ancora vivo e sto bene, è la verità. Guarda, tu vedi che diciamo che è una buona alimentazione, che gente, diciamo che non è che io non so mangiare di carne, però il pesce ogni settimana ci deve essere, hai capito? E niente, domani c'è carne, c'è agnello, mamma mia, io non è che sono molto, capito? E quindi ho detto se lo facciamo domani, lunedì notte, ho le coratelle, possiamo fare una coratelle e poi l'altro facciamo un po' di calamari fritti o le anguille, cose così qui, perché la carne, come io non... Non ho sempre mangiato poca, hai capito? E poi non digerisco più di questa roba, buco. Quello il discorso, guarda, sinceramente a volte non costa niente istruirsi, la verità. Guarda, tu puoi andare anche benissimo su internet, chi ce l'ha? Io comunque l'ho acquistato questo libro 19,50 a Sassari. Comunque puoi andare in www.macroeditori.it e ci sono un sacco di libri, te lo puoi tranquillamente ordinare, fa tra una cosa e l'altra ti viene 20 euro. Ecco, non costa niente, secondo me sono 20 euro spesi bene. Te lo leggi questo libro e poi cominci a metterti un pochettino, un sacco di domande in testa, perché ripeto, non sono cazzate, e poi mi dai una risposta. No, ti credo, Antonio, mia moglie c'ha il colesterolo alto, senza mai aver fatto abusi di nessun, e gli ha detto, dottore, devo mangiare carne, di stare alle feste, e l'altro alle feste mangia, poi ti metti in regola, ti metti, hai capito, e non si può uno stare alle feste, però queste cose, non so se sono diete, bisogna anche seguire un'alimentazione anche per un periodo, fino a mettere a posto i valori come... quella che stai facendo tu, Antone, tanto la entra, carne piena, che ho preso, che tu mangi, anche se non è carne piena, roba che a te ti piace, capito, non lui di ognuno. Antone, ma è utile se tu ti regoli con l'alimentazione e poi ti metti in bocca il fumo. Quello, guarda già, senza ombra di dubbio, sono pienamente d'accordo su quello. E lì non hai nessun torto, pienamente d'accordo, ma andiamo una cosa inizi e poi ce la butti, perché adesso da 10 che stavo fumando prima ne sono diminuito a 5, l'ultimo piano piano sta le sto buttando via, poi passo la sigaretta, dovrei tra virgolette essere a posto, però ripeto, il cambiamento che ho fatto nell'ambito dell'alimentazione, anzi la verità, ha avuto un sacco di giovamenti e non poco. Ti senti più leggero così? Guarda, soffrivo sempre di mal di testa ogni volta, sparito il mal di testa, gonfiore di stomaco, nausea, grazie, c'è mia figlia, nausea, mi sento leggero, perfetto, tranquillo, non più sonnolenza ogni volta che mangiavo, sempre quella bioco, quel sonno brutto che ti viene dopo mangiato, tutti questi fattori non li ho più, e mi sento bene la verità, non ho avuto mai nessun problema né cali di pressione, perché oltretutto anche sono microcitilico, per dire, non ho avuto mai più questi problemi, la verità, mi sento benissimo, come che la verità mezzo rinato, mezzo perché giustamente in mezzo c'è la sigaretta, però confronto prima mi sento mezzo rinato, te lo giuro, io personalmente, ecco. Antonio, io adesso risolvo subito, mi compro, cioè mi stanno regalando la sigaretta elettronica. mia moglie me la doveva comprare per Natale, invece no, invece poi ha trovato una persona che la vede di meno, quindi devo aspettare dopo le feste che me la mi arriva. Quello sì, guarda, lui sta facendo un dibattito sia in televisione che nel giornale. Comunque adesso c'è un altro fogliettino che apre a Sassari, dice una traversa di Viaggi di Vita Vecchia, se non ho letto male, questa sigaretta elettronica che respira solamente CO2, giustamente acqua, senza aggiunta né di cottina né di aromi, giustamente per il gusto. Non so quanto viene questo tipo di sigaretta. Comunque, ne stavano parlando, sì, dice fa meno male della sigaretta, quello pienamente d'accordo, perché non c'è combustione, però ugualmente fa male. Dunque è arrivato a un certo punto, è diventato più un business, una moda, perché quanto pare c'erano tutti, anche persone, ho visto, che non fumano, hanno questo cazzo di sigaretta elettronica, dunque alla fine vedi che è diventata una moda. Sai, come le pecore, partono una e partono tutte. Lo Stato sta facendo meno soldi, è normale che debba togliere qualche cosa per cercare di non farla comprare. Sai i soldi che sta facendo lo Stato con queste sigarette elettroniche? Sì, sono pienamente d'accordo, ma pensando un pochettino, uno pensa, dice, no, sto fumando, voglio smettere, porca miseria, cosa fai? Prendi e butti, giustamente, butti sia le sigarette dal tabacchino che quelle elettroniche. Ecco, se la prendi per veramente smetti di fumare, ti accorgi che non hai più necessità della sigaretta vera e propria, grazie a questo marchingegno, giustamente dopo quel periodo devi buttarlo, non continuare a fumare. Allora lì, diciamo, il discorso cambia, ecco. Se te lo usi per aiutarti a smettere, buono, ma non puoi continuare col tempo anche con quella, non risolvi niente. Ripeto, ho visto persone, conosco persone che non hanno mai preso la sigaretta in bocca, mai, e sono diventati con questo impianto di roba in mano, anzi appeso al collo, dai, ti fa un po' pensare già. Sì, quello sì. Vabbè, in effetti è come dici tu, io avevo quell'intenzione di fare qualche tiro così e poi di metterla da parte. Avevo proprio quell'intenzione, perché qua c'è mio nipote, si è aperto il negozio, mi ha detto che si è venduto tutto e la merce non ne arriva sino a dopo le feste. Adesso tutto quello che aveva se l'ha venduto. Dice, è vero, adesso diamo a Gianni la stessa, è vero, sì, sono un sacco di richieste che è impressionante. Guarda, io la verità ci sono andato una settimana fa, lì alla piazzetta, c'è anche lì un negozio, e ho chiesto un po' di informazioni, gli ho fatto, ma ascolti, queste sostanze che giustamente vengono in latte, gli ho fatto, le lasciando perdere la nicotina che è un veleno, lo so benissimo anch'io, ma diciamo gli aromi sono naturali o artificiali? No. Non sono naturali, sono artificiali, dice. Comunque, dice, non sapeva come rispondere, fa meno male della sigaretta. Ma detto, ma gli aromi, allora anche loro provocano problemi in domani. No, ancora non è stato scientificamente provato, dunque va bene lo stesso, capito? Basti che vendano loro. Porca miseria, invece è sempre sopra la magagna, maledizione. Infatti, prima di farla bisognava informarsi. Mia moglie ha detto, che cosa vuoi per il regalo di Natale? E ha detto, compravi la sigaretta elettronica. Poi vabbè, ne ha fatto altri dei regali, ma in mezzo ci ha messo anche quella, solo che abbiamo un'amica che praticamente a sua volta ha un'amica che ha il negozio e la paga di meno, invece che pagava 50 la paga 30, mi pare, e allora l'abbiamo ordinata lì. Io sono andato a 40 euro, lo sai dove? In un panificio, vedi tu, anche nei panifici li stanno vendendo. Avanti, Capri. E ok, io diciamo non posso entrare in merito perché non sono fumatore, però diciamo questa cosa, diciamo, non è che sia una roba molto salubre, c'è la sigaretta, va bene, quello che vuoi, però anche se a Torino ti ha parlato che ci sono dei prodotti che non sono naturali, hai capito, è una roba fatta artificiale, quindi lì un domani possono dire questa roba fa male quanto la sigaretta o più la sigaretta, e per la solo anche quella che roba commesso. Ma io ho sentito dire alle poste, non stava parlando con me, questo signore che fumava due pacchetti di sigarette al giorno quando non erano tre. e ha detto che la cosa stava aumentando sempre di più. Alla fine si è deciso a comprarsi questa sigaretta e dice: beh, lo sai che io sono 3 mesi che non tocco una sigaretta, 3 mesi, e mi soddisfa, questa sigaretta mi soddisfa. E poi ho sentito tanta gente che la usa, che non sente il bisogno, e che forse la mancanza nostra è fare l'azione del tirare, capito? Tirare e poi buttare fuori, e quello non so, non è tanto il sapore, probabilmente è proprio l'atto che fai, capito? Se è un atto così imitato, magari rende lo stesso. Dimmi che 3 pacchetti vogliono fumarti al giorno, chissà come te lo giù questo pimone, questo uomo, madonna. No, e questa è, diciamo, una cosa che tutti stanno comprando perché c'è stato il lancio di questo prodotto qui, però bisogna vedere poi ai fini, Antonio, di, hai capito, salubri, come questa roba, ce lo siamo mai chiesti, adesso stavo guardando il prodotto, ha dato 2 N da voi, come andava a essere? Infatti quello è vero, non so se questo è veritiero, comunque avevo sentito che queste sigarette sono state vendute dai cinesi, che però stranamente lì non vengono commerciate perché non sono in commercio, perché sono vietatissime, che strano. Comunque sono stati loro i primi a inventare questa cosa, così mi hanno detto. Poi giustamente noi non facciamo altro che utilizzare per farne profitto. Tutto lì, ma poi se ci pensi anche, adesso esistono, ci sono i gusti alla nocciola, tu fumi, io l'ho provato a fare 2 tiri, e c'è proprio il gusto della nocciola, della menta, della fragola, del kiwi, tutti questi gusti stranissimi, giustamente quella nicotina, ma porca miseria, pensaci un po', devi aspirarti, come stai facendo un aerosol con dei gusti artificiali, sai? Alla fine se ci pensi, ma cazzo, non mi fa, no, anche questo, in questo modo, diciamo, non ti darà il problema l'indomani, spirandoti per via aerosol, perché alla fine è un aerosol portatile con queste sostanze artificiali, e non fanno male, porca miseria, o faranno meno o diciamo di meno di più di una sigaretta, quello bisogna constatare anche. Antonio, io mi sono voluto documentare proprio ieri sera, sono entrato su internet e ho digitato sigaretta elettronica, dove parlava appunto di queste sigarette elettroniche che ancora non sono state, non è stato constatato il fatto se è veritiero o no che ti fa smettere di fumare, e anche dal Ministero della Sanità per quanto riguarda queste aggiunte di aromi che mettono. Niente, in qualche caso, anzi in 2 o 3 casi la sigaretta è scoppiata, a uno gli ha tolto tutti i denti, la batteria al litio è scoppiata, gli è partita in bocca e ha crepato labbro, quanto c'era, gli ha fatto partire tutti i denti, è un altro caso lo stesso. Ovviamente qualche partita fatta di quella alla cacchio di cane, ecco, non controllate. Sì, perché sono le aziende italiane che le costruiscono, la maggior parte, come sentito, anche arrivano anche dalla Cina, gli hanno fatto un bel sequestro, sentito pochi giorni fa, sicuramente di quelli cinesi che te le fanno sì pagare ma con qualità proprio scarsa. Sì, l'ho sentito anch'io, dice che una persona è morta, così me l'ho detto, se l'ho detto sul giornale, non sulla Nuova Sardegna, che si è bevuto il liquido che serve per riempire i contenitori di questa sigaretta ed è morto. Vedi un po' tu che ti bevi, cosa ne so, 18 mg di nicotina, che è un veleno allucinante. Comunque, cosa ti fa? Ecco, arrivato a un certo punto, c'è sempre la magagna in mezzo, però ripeto, per male andando, sa benissimo che sigarette fanno male, se quello veramente ti aiuta, uno lo utilizza e il tanto che serve per, diciamo, togliere la dipendenza e poi se la butti via e la lasci completamente, sia una che l'altra. Ma. Fatta la legge, trovato l'inganno del Grish, è sempre così. Non c'è un rimedio, ma secondo me l'unico modo per smettere è deciderlo tu con la testa tua e non toccarne più. C'è che la cosa più giusta è altro che parole sante. come ho fatto io 2 anni fa, poi stronzo e coglione giustamente, mi sono fregato di nuovo con le mie mani. Comunque, vediamo un po' di ributtarla di nuovo. Avanti, Capri. Ok, però ma se uno parte con l'idea, ecco, vabbè, c'ho il vizio, quanto ne fumo al giorno? 15, domani ne fumo 10, poi la settimana ne fumo 7, ma allora, dopo piano piano diminuendo, dico che se uno se lo mette in testa, hai capito, ci riesce. Io non sono fumatore, però se ero stato fumatore ci sarei riuscito, perché devo vincere io, hai capito? Non è una cosa che uno se le sta accendendo per forza, capito? È una cosa che si accende tu, sì, c'è il vizio, però piano piano, come ogni cosa, si può anche, diciamo, levare, non tutto assieme, però gradatamente io penso che uno ci riesca, perché come stavo dicendo Gianni, 30 sigarette al giorno sono tante, ripeti già. Guarda, se sono stato lontano, io avevo il mio cognato che ne fumava 3 pacchetti di multifilter. Un giorno l'hanno preso, lui è andato all'ospedale, il dottore dell'ospedale gli ha detto, se non vuoi finire in mezzo alle croci, la smetta completamente perché gli può venire un infarto. Questo qui era un quasi infarto. Ok, non lo stesso, il babbo di mamma era un fumatore accanito, beh, un attacco d'asma, la stessa cosa gli ha detto il dottore, non torni che ne ho visto morire, ha detto, un attacco d'asma era venuto, io ero piccolo, qualche avevo, un anno, me lo raccontavano sempre, proprio per finire il vizio di media, ci ha buttato via tutto, non ha mai più fumato e diciamo che lui ha detto, ero nato, se, come ha detto questo, con il vizio di non fumare, non ha mai più fumato nonno, non l'ho mai visto io né col sigarette, qualche volta si accendeva la pipa così, ma una volta ogni morte di papa, ma non manco ne fumava, solo per cresceva col tabacco e faceva questo profumo bello, però sigarette non l'ho mai visto, dipende da me. Io no, io sento anche quei profumi di quel tabacco da pipa e non è male, porca miseria. Mi piace molto anche a me con il profumo. Quello è il clam, quello che c'ha il buon profumo è il clam, io le pipe di nonno ce le ho tutte io qui, me le ha lasciate a me in eredità, io, però non mi sono mai permesso, ma lo volevo comprare anche per dare quelle, ci avevo un, quando la accendeva con questa del profumo faceva, ma la accendeva così, non ne aspirava più, però diciamo a questo ogni tanto mi, non sempre, ogni tanto quando eravamo tutti riuniti a qualche festa andava, la accendeva profumato all'ambiente, riprendi già. Mi sta facendo una sigaretta Gianni. Già, la sigaretta elettronica del Proende. Cale però. Chissà se l'hai compresa. Ehi, ti racconto di ieri sera e non è sceso quel ragazzo con la moto, ma tu sai, pur di dato una teglia grande da 11 euro, abbiamo pagato e circa poi 14 euro, me ne ero accorto, io ho pagato, ho fatto la consegna, ci sediamo a tavola, c'era questo coso di affaire con salsicce, lui ci aveva due salsicce. E non ha sbagliato il corso, come abbiamo visto così Antonè, abbiamo iniziato a mangiare, ossia pomidoro di seguito, e Claudio ha detto, lui mi si è macchiato da quel vicino, anche se ce la riporta indietro, ha detto che la voleva con salsicce, ho detto ce n'è un corso, mi l'ha affittato, l'ha portato in un bar, esattite, ciao fai lì. Ma così è, ne ha mangiato prima degli altri, più te l'hai presa normale e te l'hai levata con salsiccia, era già andata bene. Comunque fatto sta non ha suonato in casa tua per riprenderla, no? Forse meno quello, no, perché ne aveva altri di quelli di affainini aveva. E ho detto adesso qui di dire noi quando sta a fare la consegna, va a consegnare qui vicino, e magari a quello gli ha dato la faina mia, però io intanto poi mi ho fatto i calcoli, dal biglietto che c'era attaccato, ho pagato come si chiama giusto, e a quello lì c'era capitata la faina senza la salsiccia, e ho detto muovetevi a mangiare, ho detto prima che ne venga, ho detto e Claudio mi ha fatto, ma ha detto se poi ha detto riviene che vuoi quello lì la vuole, ho detto mi c'è un collo di salsicce, le raffettiamo, ho detto 7-8 pezzi in mezzo. Sei andata bene, voglia. Comunque problemi notturni niente, tua moglie non ti ha buttato a calci, no? Caglia di Antonè, problema notturno so, e diurno puro. È allucinante la pena è così. Gianni doppio. E perché dovresti andare di nuovo? Sì, vabbè, ma giustamente, sai, marito e moglie, è la stessa camera da letto, lo stesso letto, sai, non è il massimo, ecco. 7-8 ossa, tanto nemmeno da dove è andato, 7-8 ossa. Io vero. C'è la legge della compensazione, no? Sì, mi fa la stessa cosa, cazzo, piccotti però. Mamma mia, con certi figli hanno a fare. Ma già, davvero, una cosa, molte volte... Infatti se devo uscire a qualche posto non mi piacciono un bene a me carciofi. C'è quello che ho da uscire a fare quello che mi devo trattenere fuori e non le mangiano. Ieri sera mi come sapevo che la fai idea, almeno me l'ha detto però io. L'avevo già sperimentato questa roba e 7-8 volte mi sono alzato. Tone, bomba già, bomba già. Metti il televisore in bagno già. Sì, tanto mi adesso mi... non le sto neanche guardando, c'ho il portatilino, mi stavo guardando ieri notte fino e mia moglie era addormentata, io avevo le cuffie e con il portatile mi stavo guardando un film di Albano sul computer perché c'è quello con la DSL, giù c'è il computer grande che ho preso a Claudio e con, come si chiama, con le antenne riceve il portatile al piano e siccome non c'è mai nulla già, non avevo sonno, mi sono messo a guardare questo film di Albano con Nino Taranto, con Romina degli anni 70 e quindi ogni tanto hai capito non c'è bisogno di portarlo al televisore perché non stanno dando più nulla stanno dando con capolate di questi cose di Natale tu ci accendetti in ogni canale c'è un film di questi di Babbo Natale riprendi a me. Genere, giustamente il periodo, dunque tutto a forza di film americani. Comunque se vuoi già, conosco dei siti abbastanza carini e non paghi, ma ce n'è per tutti i gusti. Sì, già lo conosco già, Asilo Tenere, Antonella. Asilo Tenere, già lo so, già hai capito, ormai è una come si chiama che è accessibile a tutti, non c'è manco bisogno. L'altra aveva fatto pochi affari al giorno d'oggi il cinema Astra. Insomma, per come mi hanno raccontato, diciamo già, delle persone sono abbastanza divertite all'epoca, già è vero, e altri tempi. Avanti Gianni Doppio. Pagato. Andare via, la bio come sta venendo Antonio Cicchini. Ti sento la voce, sicuramente sei stanco. Fai la cortesia, che ore sono? Lo sai? Non è il mio momento, un orologio da stazione qui, la stazione del Ciro, con un orologio bello che mi metto qui. Aspetta, mi giro la sveglia se la vedo, non riesci a vedere. Le 10:10. Perfetto, dai, c'ho quasi un'altra oretta pronto per prepararmi. Oggi è sabato, mi ha mancato anche stasera, ha mancato domenica notte aperto, no, con me. No, i tempi ormai sono cambiati, anche la crisi maledizione si sente. Solo il sabato, prima aveva venerdì, sabato e domenica, poi è iniziato a calare sabato e domenica, e adesso solamente il sabato, una volta alla settimana. E anche lì, porca miseria, c'è la crisi, e ella si sente. E quando sali buio a Ussi c'era il Maeba e la Poker Dassi c'era. Maeba e Poker Dassi, Maeba mi sembra che era vicino al rifornitore. Sì, esatto. Ma meno male mi ricordo, io l'ultimo che mi ricordo era il Poker Dassi. E poi giustamente l'iPort che non so se dagli anni 70 sì, è sempre in funzione, ma diciamo musica per persone un pochettino più adulte. E hanno fatto anche la pizzeria, dunque puoi mangiare e ballare allo stesso tempo. Già l'hanno fatta carina come locale là, però diciamo, ci vanno persone di una certa età, anche giovani, e perché non ripeto, però sono persone un pochettino più tranquilli lì e confronto alle discoteche normali. Non c'è tutta quella mondetta in giro. Poi io ero convinto che l'avevo lasciato, invece ce l'ha il mio amico, quello che si è fatto a cadere, ce l'ha il mio figlio. E stavo pensando, se l'avevo lasciata, io avrei chiamato anche Natalino a Sassari, però ho visto, sono passato l'altra volta a portare a Claudio a lezione di organetto, hai capito? E ho visto che c'era la macchina di Torre, quindi ho detto sta funzionando, non ho lasciato il locale, perché ero pronto a prenderlo lì, Antonè, capito? Avrei messo, lasciato il cuoco con il pizzaiolo, come c'era, e poi magari avrei preso a te al bar, capito? Era stata, giusto per mandarlo avanti, a costo anche di, diciamo, di guadagnarci poco i sabati per uscirmene. Io sarebbe venuto a fare butta fuori. Tutte no, ma no, che lì proprio non è capitato mai niente, cioè quando c'era quella Cargeghe, ogni tanto tu sei viata, partia a Cipria, ma siada, e diciamo, ma si andò a fare forte, ma lì proprio io sono salito, non mi chiamo se ne capitava, ma proprio lì non è capitato mai nulla. Quale stai dicendo? Al Charlie di 77? Che mi dà una ossa e viene rambulata, come? Non ricordo bene che un ragazzo, mi pare c'era una vent'anni, c'era una sventola, ma giustamente a bere, lì all'epoca c'erano i Botturini, già me la ricordo bene, no, era una piccola discoteca che andava, è messo e ferma da anni, e via. Comunque dopo sta l'airport già, sta andando, ci sono un sacco di richieste, perché ad esempio se tu vuoi mangiarti la pizza devi prenotare. Dunque, se mangi la pizza non paghi giustamente l'entrata della discoteca, invece se non vuoi mangiare pizza e andare a ballare, sai che si paga 5 euro. Comunque ti dico che ce ne vanno persone, sta sempre andando, ogni anno c'è sempre quel solito gestore, vuol dire che c'è intanto. E il Tore ce l'ha, c'è anche lui, c'è anche la rivendita delle bombole a Sassari. No, ma la gente viene da fuori, capito, c'è un giro di persone che vengono da fuori, che io lo so. Mio figlio ci ha dato parecchie cose, però non mi interessa, adesso deve fare delle serate fuori, deve andare a Bolzano, l'anno nuovo, a fare un 3 o 4 giorni con questi del conservatorio di continuare a solito, perché Lutero è sempre alla fisarmonica, e ogni tanto lui va in continente anche, quindi lì la prova, no, la volevo prendere, se non dottore l'ha lasciata, la prendiamo noi in gestione, tanto c'ho i servizi, c'ho tutto e la prendo, cioè organizzo, hai capito, e ti avrei fatto lavorare a Torre per tutto il periodo di Martoli, avrei lasciato il pizzaiolo che mi sembra che di Orsi, quello che è. Hai capito? E avevamo gestita in poche parole. No, già, fortunatamente, guarda, se ti pita andando meglio quella, con la piccola discoteca che è il Blue Star, perché c'è un giro completamente diverso, è molto più selezionata, le persone così via. No, sta andando, va a voglia, anche alla grande. Peccato apre solamente il fine settimana. Sai, con la scusa della pizzeria avrebbe potuto lavorare tranquillamente ogni giorno e anche sempre, perché no, con la musica dal vivo. A voglia c'è tutto lo spazio per fare qualsiasi cosa. Vuol dire che le va bene così, c'è il tanto, dunque se ne frega e giustamente fa bene. Sì, ma almeno di qua poi ci puoi lavorare lì dentro. Se ci serve qualcuno volentieri. Lo sacchetto, il bombolaio. Però se te lo dico, adesso è stasera che appello, io macchina, prima la macchina come ce l'avevo sotto il culo, adesso è giù. Però tanto domani, forse lunedì sera pure a presio, io devo salire forse a fare spesa a Ossi e se c'è aperta glielo dico, capito? Se glielo dico magari ti prende pure, se sei una persona abbastanza seria, così giusto per non stare pigliando freddo, ma fatene su, magari ti dà anche qualche cosa in più, facendo il parcheggiatore lì e non so quanto ti danno neanche, riprendi già. E vabbè. Bisogna mettere i fatti compiuti prima. Ma sono, diciamo, ho capito che stai dicendo, ma il bombolaio stai dicendo tu. Ho capito. Sì, è il bombolaio. Ho capito. Siamo andati da poco, oddio. Siamo un po' di mesi fa, con Leoncino, con Antonella, belli. Ricordi che era mezzo imparentato, cos'era? Comunque già lo conosceva Leoncino il tipo. La discoteca prima era del padre. E padre quella discoteca lì, là, in forte. Allora, era del padre di Uccino. Oh mio, non lo sapevo. Appaga, sì. Era del padre, del padre. E comunque, conosce un bel di gente, Uccino Russi. Bello, sai, a volte anche lui giustamente, anche lui necessità di lavorare, non ci ha mai pensato a chiedere, non lo so. Sembra così una persona che conosce tante persone, porca miseria. Da un bel giro. Avrebbe messo un pochettino più fortunato confronto agli altri, sai. Parola, passa parola. Però vedo che in qualsiasi posto che va subito lo saluto, e beh, io lo vabbè, giustamente lo chiamano per nome, sempre di Uccino. Comunque, però era un pochettino più di fortuna confronto agli altri, non capisco perché non ha sfruttato questa occasione. Chi era già del Babbo degli Uccino la discoteca? K. Ma allora fa Branca di cognome. Perché quella era di Coro, di Branca era il locale. Beh, comunque anni fa c'era il padre di Uccino, non so perché, non so di sicuro, c'era il fratello, Nico, eccetera, eccetera, che la gestiva. Come si chiama di cognome di Uccino? Vabbè che non lo fa lì. Ok, ma io ci conosco sempre il bombolaio lì dentro. No, aspetta, all'epoca quando ci veniva la Bebola c'era, oltre alla discoteca c'è anche il cinema, se ti ricordi bene già si chiamava il cinema Branca. Dunque, l'unica cazzata era di Ossi questa persona, dunque gestiva sia il cinema che la discoteca, era il cinema Branca, e poi questo Branca, giustamente il cognome, gestiva anche la discoteca. Io mi ricordo quello da piccolo. Perché gestiva, era suo il cinema, c'era anche un Franco, come si chiama, dove c'è il bar adesso, lì c'era anche, come si chiama, facevano anche ricevimenti per matrimoni, poi c'era la Bocca in Tassi, era piccolina perché c'era allora il cinema, la Bocca in Tassi non era molto grande, capito Antonè, però era Branca, il padrone era Branca di lì. Veramente la propria in gestione, non lo so, la verità, io mi ricordo, a piccolo andava qualche miseria, e tanto anche, c'era anche la fila, dunque bene o male sono rimasti alcuni arredamenti dell'epoca, c'era ancora l'aereo lì, con le luci sospese a forma di cubo, luminose, col pavimento che si illuminava, mi sa quello l'hanno eliminato da poco, io mi ricordo Branca, che poi sicuramente questa persona è morta, o sbaglio. Saremmo passivi perché minimo minimo all'epoca c'era la letta di nonno e il nonno è morto, io avevo 5 anni e era già anziano da allora, sicuramente sarà morto e sarà. Allora, la discoteca l'ha aperta proprio il padre di Uncino, tant'è vero che Uncino, se te lo dico, ti ha detto quando c'è arrivato l'aereo hanno dovuto prendere la gru e passarlo da sopra. E quello è vero. Dunque stiamo parlando molto prima degli anni, no aspetta, sto dicendo, sì, molto prima degli anni 70, almeno 68, nel 68 sicuramente, allora all'epoca, sicuramente era giovane il padre. Ce l'aveva in gestione questo che ci aveva a Santa Coso, sì, a Santa Teresa ci aveva, si chiamava, mentorate, l'Ottagono. Io sapevo così, poi anche di Uncino me l'ha confermato che era del padre. La prima parola, non lo so, dipende, poi io mi ero anche arruolato, l'avevo presa in vita, la discoteca, e ora sì, o non mi ricordo già, hai capito? Tu vuole essere, però io ti ho conosciuto niente poco di meno, circa 25 anni e ci conosco sempre al bombolaio. Non lo so cosa dirti. Andava, io sapevo così, ma lo sapevo, lo so, da Uccino, lo sapevo anche da altra gente che era sua la discoteca, o che l'ha presa in gestione, non lo so, però andava Uccino, ci ha detto che quando hanno portato lei l'ho dovuto passare dal tetto perché non passava. E ti sto dicendo già che io lo conoscevo, era di Branca, sicuramente ce l'avevo in gestione, perché il titolare era Branca, e allora ero un ragazzino, quando andavo al cinema, ci avevo 12 anni, ci avevo, e niente, il proprietario era Branca, sia della discoteca, della Popper Tassi e della l'altro dopo c'è il bar che era un corso per il trattenimento dei ricevimenti di matrimonio, che più di una volta ci sono capitato a matrimoni. E così, poi non lo so, magari poi e lui era già anziano da allora e l'avrà sicuramente in gestione e sicuramente come avesse molto usomere tranquillamente. Si prende a me. Sicuramente sì, però c'è questa signora, non so se ti ricordi, ma la verità il cognome e il nome viene in mente. Questa signora Zoppa, non so se ti ricordi, che ci ha avuto sempre il mugno, ancora esiste con questo mugno ancora più grande di 10 anni fa, te la ricordi? Se non sbaglio anche lei doveva essere padrona di quel posto. Questo signore è buon. Io ci ho voluto sempre al bombolaio. Non so poi se c'è altra gente, non so, ma qui si è perché mi ricordo una piccola anche lì, questa signora, non signore, signora gestiva questo locale, comunque, il bar a fianco, Alex Bar, è sempre aperto, sicuramente in parentela, sempre lo stesso posto, ma è rinnovato, è vecchio stile, ma lì ogni tanto fanno delle feste, fine settimana, arrivano molti giovani, è la verità. Se ce ne presenti, poi fa attaccato alla discoteca, Alex Bar, anche quello stesso, va alla grande sempre i fine settimana, poi dentro settimana è sempre completamente vuoto, tutto lì. Ma non è che la figlia di Branca, no? Perché quando c'è salivo al cinema c'era la figlia di Branca e adesso è più grande di me, quindi può darsi che sia anche quella signora che stai dicendo tu. Può darsi, allora sì. Allora sì, perché diciamo questa signora è proprio, cioè il terrazzo sia sopra la discoteca che sotto il bar, diciamo è tutto uno stabile arrivato a un certo punto, sicuramente è sempre, diciamo, stabile di famiglia, ecco tutto lì, sicuramente è imparentata anche lì per questo signor Branca, sicuramente sì. Oh, forse che sia la moglie, ma non credo, se tu dici che all'epoca è già anzianotto quando c'erano i 18 anni, è forse che sia la sorella o qualche parentela, dai, arrivato a un certo punto. Quando ne avevo 12 era già anziano da allora, quindi sono passati una quarantina d'anni, buoni buoni, e quindi si è morto tranquillo. Poi già salivo a provare la dama di cuori, ma è andato o sia la dama di cuori già? Io? Io la dama di cuori ci avevo tutta la greffa di Proaghe. C'avevo tutta la greffa di Candida, eccetera, eccetera. Poi c'era Emilio, quello bezzumano. I suoi agenzia funebre già. Esatto, quello che faceva la dichiarazione a tutte le ragazze. Io non lo conoscevo, già l'avevo fatto applicarlo pure, ma non lo sapevo che era, poi me l'hanno detto, anche prima di lui, io pensavo che la persona aveva vomito per un ponte così, e io lì lo pagavo perché signor Surina, il titolare della discoteca, vendeva le bibite, praticamente le parlo della cosa smeraldina, e mi conosceva da bambinetto perché portava l'aranciata, la facevano a Proaghe, il negozio da nonna, poi da mamma, e quindi ero di casa lì, non pagavo manco uno spicciolo, e stiamo parlando degli anni 70, sempre prima di arruolarmi, salivo lì che era il 77, che avevo la patente da poco, ma il 77 già, hai capito? E ci divertivamo perché venivano molto assacrati da tutti i paesi, allora non c'erano tutte le discoteche che ci sono adesso e diciamo che c'era un bel ambiente, poi avevano piantato una anche a Florina da già. Sì, la dama di cui una volta stavano per accontentare un amico mio. Se fosse stato per me, recuperava la libia, questo qua, ha fatto volare il coltello qui. Lo stavo per strangolare, perché stava smorfiando questo amico mio come ballava, noi eravamo con le ragazze. Questo qui ci smorfiava e si metteva a ridere. E questo amico mio è un po' attaccabrighe, nel senso che è prepotente, si fa rispettare, però le mani non le sa usare. Cazzo, questo qui ha 13 furi. E tu cos'è che c'è da ridere? Imbecille. C'è 10 furi, te lo faccio vedere io. Ma poi se dice, tu furi, sono andato anche io, meno male. Questo c'è stato il contesto. In quella entraia la cosa picciola pure, mi dicevano che io uscito solo. Hai capito? No, però io mi sono saputo sempre comportare già nei posti. Ho evitato di creare sempre buliane. Molte volte se la fotografata, noi l'ha fatta e gli davano anche la possibilità di salvarsi, però qualche volta che qualcuno che ci fa di questi con me che assaggiava roba al bar, poi iniziava a dare corda, a punzecchiare, a rusticare le donne che venivano facendo il galletto lì, e poi, come stai dicendo tu, volavano anche gli schiaffi e più di una volta. No, ma noi avevamo tutta la greffa di plaghe, no, questi qui erano di Sassari, non erano di plaghe, già. Erano di Sassari, tanto è vero che poi ho trovato il fratello e glielo ho detto, beh, cavolo che andare via a casa, è fatto bene a prenderlo a schiaffo. E tu quando arrivo a casa ha preso altrettanto, imbecille che non è altro. E comunque, non so se li hai conosciuti, Maria Cari, da Gianni Mele, tutti quelli lì. Senz'altro già, adesso io non mi ricordo, ma senz'altro noi abbiamo la stessa età già, quindi diciamo proprio di sì, proprio di sì, e che magari siamo anche visti di dentro, ma io che sono completamente magro magro prima, infatti molte volte ci è rimasto solo una foto, e gli altri mi hanno lasciato tutte grigie delle foto quando non andavo, ce n'è una, ma non sembri anche tu magro magro come Claudio, magro magro, magro. Quindi immaginati se ci conosciamo già, come sono diventato adesso, alcuni che mi hanno visto di colleghi che avevo, poi adesso sei diventato anche un colosso, ero magro magro già, figurati, no, andavo lì, giustamente non andavo sempre lì, qualche volta poi salivo, però lì non sai quando andavamo già, non di notte e tardi, noi andavamo la domenica di pomeriggio chiudeva alle 9, e allora capito, incontravamo parecchia gente di Sassari, di notte invece in sabati andavo al Maeba, o se in più andavo al Maeba. E anche io, andavo alla Scalarruia, si chiamava, una discoteca, Rustar c'era, poi Maeba, e tutte quante mi hanno girato quelle discoteche. Io facevo sabato e domenica, sempre discoteca, sempre, tutti i sabati e tutte le domeniche. E ti dirò di più, la Dama di Cuori è stato il mio primo bacio con mia moglie, immaginati ballando. E ce n'erano, io diciamo allora sapevo che dovevo andare dove dovevo andare all'epoca, e quindi sì, ce n'erano che ci ballavo, che ci stavo, però io dovevo partire lì e niente, non mi volevo legare con nessuno assolutissimamente, hai capito, e quindi era una cosa che moriva lì. Poi qualche volta sono andato, ma si possono contare nella punta delle cinque dita, a coso, a Itri, a questa discoteca Mania, non so se ci sei mai andato tu. Poi io sono andato all'UFO Club, a coso, a Sorso, al Mampea, ad Alghero, e capri ne ho girato, però sempre già con tanto di rispetto delle persone, e qualche volta che magari, come stai dicendo tu, eri a Nagai, mi stavo zitto proprio per evitare, perché avevo fatto già domanda lì e bastava una minima cosa e mi avevano vestito, non mettermi nei pasticci, e quindi molte volte dovevo anche subire e mi dovevo stare zitto. Riprendi anche me. No, come ho fatto il primo bacio, se mi ha fatto ricordare, lavoravo io lì a Scalarruia, all'epoca l'aveva preso il mio De Montis, quello che lavora alla scuola guida lì a Serra Secca, l'aveva chiamato l'Epinite nel 92-93, avevo iniziato lì a lavorare, per la prima volta in discoteca, lì ho conosciuto questa ragazza che si chiamava Stefania, e il mio primo bacio l'avevo dato lì, sì, bei ricordi. Vedi. No, io già andavo anche con gli amici per rimorchiare, andavo. Bei tempi, no, qua, se ci pensi, altro che questi, non c'era tutta questa merda di droga che c'è in giro. Quello almeno ti divertivi con poco, vabbè, giustamente il ragazzino aveva la testa tra le nuvole, qualsiasi momento era divertente. Comunque almeno erano tempi un pochettino più sani e confronto adesso. Adesso me ne hai fatto ricordare già, me ne ero dimenticato, lo sai. Ma il mio è stato il mio primo bacio con mia moglie. Poi ce n'erano state altre cose, però come mi dicevamo, facciati lì ballando un letto. Facevamo parte di quella greffa di Ploaghe, e noi andavamo spesso lì a Ploaghe perché avevamo la greffetta, che erano tutti di Ploaghe. Siccome mia moglie aveva delle compagne di scuola che erano di Ploaghe, e ci avevamo detto dai venite, questo e quell'altro, e avevamo praticamente frequentato questa greffetta che erano tutte persone brave, tra cui ce n'erano due a cui piaceva mia moglie, e una addirittura che era proprio invadente, che richiedeva se io ero ragazzo, se qua, se là. Io ancora non ero ragazzo. Una volta l'ho invitata a ballare e io ho preso, mi sono praticamente invitato un'altra ragazza a ballare, e mi sono messo a ballare vicino a loro per controllare, no? Fatto sta che mia moglie si è accorta che io stavo ballando con questa qua, e ha fatto di tutto per... mi ha chiamato, ha detto ti devo parlare, cose del genere, mi ha detto una cazzata, certo per staccarmi da questo. E fischiando Fabio già, mi sa, riprova di nuovo. Fischiando? Prova. No, adesso no, ce l'avevi sempre sotto fondo questo fisco strano. E io, Patrizia, mia moglie l'ho conosciuta al Blue Star nel 94, come effettore militare, fatto 93, poi 94, settembre, erano congedato, e a ottobre, il 13 di ottobre l'ho conosciuta lì al Blue Star perché stavo lavorando lì. Sì, no, bei tempi già, veramente belli, spiacerati, tranquilli, tutto era un divertimento, guarda, veramente belli. Mi ricordo una volta, mi inventavo storie strane e mi stavo riposando nel divano, non mi era mai capitato una cosa del genere, ed era un po' pensieroso così, ma era un po' per i fatti miei, e c'era l'amico mio che stava ballando con una ragazza, io la verità non stavo ballando, quindi mi sono seduto. E si è avvicinata questa ragazza da me e ha cominciato a chiedere come mai non stai ballando, ma sei solo? E tu sì, sono solo perché mi ha lasciato la mia ragazza, ha cominciato a ventare male, sono di malumore, e questa è la canzone nostra, eccetera eccetera, e mi ha detto dai vieni a ballare con me, e ci siamo messi a ballare, però non avevo voglia sinceramente di attaccare i brigami, e l'ho mollata con una scusa, gli ho detto scusa un attimino che ho visto un amico, torno subito, l'ho mollata a mezzo alla pista così. Perché te ne diciamo all'epoca con la tua ragazza, dove scappolo? Era scappolo allora. Era scappolo, ma avevo inventato la studia così. Tu già invece qualche avventura amorosa, sì, la tua, quando eri ragazzo l'hai avuta anche tu già nei Capri 2. Diciamo amorose, non piace perché me ne fregavo, sì, mi avevo, hai capito, me ne piaceva, però io sempre la mattina quando si fa il gioco ti arrivavo sulla prima tappa al bisbacco con la moto lì. Ce n'era quel punto, cioè l'emiciclo era pieno, hai capito lì, e era, ne ha, tantissime ne avevo, però non sei a toi, non mi sono mai dichiarato con nessuna, ripeto, poi frequentando anche queste, se, c'era anche Luigi Clebertissi, la dama di Curio, una volta ero con questa tipa che lavorava da qua sotto, stiamo parlando di circa 35 anni fa, e niente, poi non l'ho più vista perché tanto nei carabinieri e nulla, però ne ha proprio avventure no, perché più che altro eravamo ragazzi, avevo appena 18 anni, quindi diciamo così, quando era a scuola sì, qualcuno, però non avevo il coraggio mai di dichiararmi, quindi se oggi mi piaceva quella, domani vedevo se piaceva un'altra, l'emiciclo era pieno Antone, quindi hai capito, no? Andavo più che altro così a scoppeca per distrarmi, passare una serata di come quello dicendo Gianni, però non ha avuto attivo che come non è l'arma lì, però sempre robe o forte tagliate subito, riprendi. Una volta Antone, dimmi già, una volta a Carnevale decidiamo di andare con questa amica a ballare. Lì avevo bisticciato con un ragazzo e mi aveva chiesto di portarla a ballare perché per distrarsi, dai. Vabbè, andiamo a Usilo, decidiamo di andare nella discoteca che c'era a Usilo, all'entrata, adesso non mi ricordo manco come si chiamava, qualche cosa come Messico, roba del genere, vabbè, non mi ricordo il nome, e andiamo a questa discoteca che era la prima volta che andavamo, dico la verità, non ero mai stato lì. E ci andiamo, io ci avevo due maschere e cose, e ci mettiamo queste due maschere a carnevale. E questa amica mia mi ha detto: già, se mi invitano a ballare non c'è problema, tu balla con chi vuoi, io ballo con chi vuoi, non c'è problema. Vabbè, siamo messi d'accordo così, ci siamo fatti qualche ballo insieme, per l'hanno invitata a ballare, è andata a ballare e cose. E io mi sono buscato questa qua, questa mi ha detto: vuoi ballare con me? Io, e aveva la maschera, c'era il domino, e a un certo punto ci mettiamo a ballare, lì mi dice se sono occupato, se sono scappo, ho detto no, io non ne ho ragazza, non mi va in questo momento di avere ragazzi fissi e cose del genere. No? Beh, parlando tutta la sera, questa qui mi ha detto: lo sai che mi hai colpito, te lo devo dire, eccetera, eccetera. Ma se le negava, ha detto: vabbè, dai, tu il domino perché ti voglio vedere in faccia, se no non ti posso baciare. E lei mi ha detto: vabbè, sono brutto, come fa un sorriso? Mamma mia, tu ti senti quasi, povera me. Che sfiga! La morte, peggio della morte, brugosa, tutta quanta con i denti guasti, cazzo, ma adesso è scappato. Non l'hai baciata? Te ne vai, che allora lì tu, non l'ho baciata, ma sono scappato. E poi a tempio, già, ma è andato così da giochi? No, no, ci ascoltiamo, a tempio no già, però diciamo dal ghero andavo, hai capito? E poi anche quando non avevo la patente, hai capito? C'erano queste, adesso sono donne, hai capito? Grandi amiche di famiglia, e avevo organizzato, no, mamma e papà erano giovani ancora, sto parlando del 70, del 75, aveva ancora papà l'850 Fiat. E andavamo a Padronchiano da qui da Carnevale a questi veglioni che avevano improvvisato per il Carnevale, e anche lì diciamo si conoscevano ragazze, solo che io ero appiedato all'epoca, perché la moto ancora non me l'avevo comprata, hai capito, per l'epoca. E c'era la Vespa di nome, non me ne dava, non rimanava qui in zona. E niente, avevo convinto a babbe e a mamma, e ci parlavano i balli tanghi, anche roba da ragazze, erano bene attrezzate di ballo avevano. E così trovavano queste ragazze, di una amica di famiglia, no? Mia sorella che era una ragazzina allora, e così, e infatti avevamo anche due o tre macchine. Se no non potevo uscire Antonè a me, appena che era di andare, e neanche lì c'era un bell'ambiente che piaceva, e bravo, quando era riposo avevamo sempre, mi faceva capitare proprio i sabati notte che non era di servizio, proprio per andare lì. Riprendi Antonè. Yeah, no, ma vedo che come racconti, dai, ti metti a rete, dunque già hai avuto dei buoni ricordi, dai. Rivive i momenti in pieno. No, ma più che altro è una roba familiare, perché bene o male qui i da fuori tutti ci conoscevamo, li prendevamo anche da fuori, però la maggior parte era tipo una roba familiare, ci conosco anche l'altro giorno, stavo parlando con la, che su questa è Bidella, quella elementare, ti ricordi tu quando andavamo alla questa sala, a Montana Noa, che erano fatta con lo Giano, lì non tornano più quei tempi, ma ci divertivamo con poco, hai capito? Poi che ho avuto la moto, mi avventuravo a Tizi, hai capito, a Ossi, però non più di tanto, a prova che salivo con la macchina, che avevo la patente da poco, piano piano salivo, e un ubidone di Abba, sempre dei 20, Antonè, c'avevo 250 già, bolliva, pronta a buttare la patta quando arrivavo. L'ho avuta, non ti ci 50, però non bolliva nulla, non andava bene. Io andavo anche a Nuoro in 8:50, lo sai, sono andato anche a Nuoro. Era di mio suocero, me l'aveva fatta poi quando ho avuto un incidente con l'altra macchina e mi aveva fatto la sua. Per ricordi, se no la volta da Marini, cazzo, da Marini una volta stava lasciato con questo amico si ferma al bar, stava bevendo, io vedo questa tipa, la sola l'ho vista a ballare, tutta la sera parlando, ho detto passo la sede, ma ha detto no, non sono occupata, mi ha detto, sono con un amico ma non sono occupata. Va bene, da lì subito mi è salito il pallino, ho detto mamma là dentro, questo e quell'altro. Ma a un certo punto mi giro, vedo questo amico mio che stava parlando con un signore al bancone del bar. E mi fa un cenno, come di andare lì. Tu dimmi Bernardo, cosa c'è? E questo qui mi ha detto, già, ascolta, questo con cui sto parlando è il magnaccio di quella che stai ballando tu. E questa qui, vero, qua nella discoteca si addesca i tipi e si riporta in bagno, capito? A pagamento. Tutta la sera la bagaglia, mano, ho preso tutta la sera con questa donna di facili costumi. Valdracca! Quelle sono le due cose, quella di Usilo e questa qui che mi sono andate male, però dico la verità, già mi sono divertito. E poi niente, già andavo molto spesso in discoteca. Abbiamo cominciato a parlare, non so se tu le conosciute, le salette da ballo. No, la verità, non ti lo può fischiando, sai, ma non è che hai la batteria a scarica già. Sì, è così, ma non è del ricambio. Se dà fastidio cambia apparato. Per sempre, ma credevo che per avvertirti, non so mai che hai qualche problema di apparato, questo mi è venuto in mente che sia anche la batteria. No, no, vai tranquillo. Non le salire al ballo, no, io sono del 74, dunque non le ho mai conosciute. Ma se continuiamo così mi sa che le conosceremo di io, le conoscerò di nuovo voi. Come? Allora, nel periodo che andavo in discoteca, nel frattempo c'erano anche le sale da ballo, le cosiddette sale da ballo, che c'erano dalle più belle alle più brutte, diciamo, c'erano anche grandi tipo capannoni, roba così, ed erano delle greste praticamente che prendevano in affitto dei locali e le facevano a mo' discoteca con i pareti, la gabbia del DJ, eccetera, eccetera, e poi si formava la gente. E, diciamo della Grefa andava a ballare, invitava solo gente che praticamente era affidabile, eccetera. E questo amico nostro di Grefa aveva detto che il suo principale, lui allora vendeva in piazza Stora la roba, diciamo, da vestire, roba così, che il suo principale aveva una grande cantina sotto un palazzo che era fatta tutta da arcate e che era l'ideale per fare una saletta, e quelli del palazzo non facevano altro che buttarci dentro rifiuti, questo e quell'altro. Allora il suo principale ha detto, non vi faccio pagare né affitto né nulla, vi mettete la luce, ve la pagate voi e diciamo la rifate, la pulite, la fate a me, io sono contento che almeno viene sfruttata per qualche cosa di buono. Beh, fatto sta che ci mettiamo d'impegno, l'amici muratori cominciano a fare la caccia e spruzzo, tutto quanto, tutte le colonne belle fatte a caccia e spruzzo, tutto quanto, poi hanno buscato i cantoni, hanno messo due cantoni, hanno fatto i sedili con una trave, tutta rivestita, l'altra tappetiera, la rivestita tutta quanta con la moquette, qua ha fatto una cosa un bel bella, ha messo le poltrone, tutto qua. E ballevamo, la sera andavamo tutti a ballare lì, oppure andavamo tutti in Greffa in discoteca, dipendeva al cinema. E poi andavamo anche in altre salette, capito? Dove a sua volta veniva gente magari da noi e poi ci invitava ad andare nella loro sala per vedere le cose, conoscevamo altra gente, poi portavamo ragazze, insomma c'era un giro. E poi un giorno siamo tutti questi due delinquenti, volevano entrare, abbiamo detto che non potevano entrare, che era a circuito chiuso, la discoteca, che adesso lo per la greppa nostra, e un bel giorno siamo ritornati e ci avevano fatto la sorpresina, ci hanno praticamente defeccato tutti i muri, rubato l'impianto stereo, le luci, il cervello, tutto quanto, e alla fine non l'abbiamo più fatto. Allegria. E da giorno non avete più fatto nessuna festa? No, andavamo nelle altre parti, andavamo nelle altre salette, c'era Lusumbrini, Veneta Veredda, ce n'era un'altra, avevano i nomi, Allora, Andretta, queste esperienze mai, non le ho mai avute, ma si sa che ritornano quei tempi, almeno la gente partecipa un po' di più, adesso è abbastanza richiusa in casa. Avanti, Capri. Sì, Antone, no, ci divertivamo, perché, ripeto, era una roba familiare, come io dico, ci andavano anche persone anziane, che io dico adesso, con questa delinquenza, o questa, quella come stavate parlando poco fa, temono anche a uscire di casa e andare, ma come stava dicendo Gianni, quelli di Codrogiano erano delle salette fatte così, e ci divertivamo, la gente andava, anche anziani, c'erano dal più piccolo fino al più anziano, hai capito? Però adesso, è tutto come si chiama, quello che stavi parlando poco fa, come capito, ti devo pensare, ormai i miei sono grandi figli, però come stai dicendo tu, una ragazza, ma anche un ragazzo che sta di 15-16 anni a domanda legali, se uno se ne guarda non una, non 100.000 volte, come ha fatto Gianni, si deve di nascosto controllarli, perché siamo a tempi brutti. Sì, poi non sia così, diciamo, questa droga qua, che sto dicendo, costa 30 euro. Porca miseria, sempre bene o male qualche specie di questi legati, cioè, possono fare anche tranquillamente colletta e poi si tirano di quegli sballi impressionanti, qua è da vedere già, è solamente da vedere, tutto lì. Comunque già insegnano anche queste cose, sai bene o male un po' come comportarti, perché guarda, adesso la nuova generazione, i nuovi genitori, sai, no, queste cose mica manco se le immaginano e alla fine poi i figli un'indomani chissà come cacchio si riducono a qualche accidente o te mezzi rincoglioniti. No, meglio sempre guarda e provare queste esperienze. Infatti no, ma fanno bene io, ma guarda se è vero che a tale ora e nonostante che non c'erano, come si chiama, i telefoni, mi portavo il telefonino, mi diceva la prima cabina, mica sono arrivato, sono in tal posto, vengo a tale ore, e l'ora era precisa, ma con chiave mi prendevo, ma con chiave, e mamma di cure stava sveglia fin quanto non rientravo, hai capito, ma con chiave mi prendevo, perché sapevo che a quell'ora rientrava, stava sveglia, non dormiva finché io non mettevo piede in casa, però non gli ho mai dato fastidio come fanno certi che stanno anche due o tre giorni fuori per l'orario, ma mai fatto, riprendi già. Vediamo come sopra, perché mamma stava sveglia, c'era ancora attorno a voi io. E io tanto dicevo, ma perché non vai a vedere? Non sto tranquilla se non ti vedo a casa, questo e quell'altro. Ma sono le 4 di mattina, cavolo, non puoi stare tutta la notte aspettando a me, cavolo. E così mi dai anche fastidio. No, che devo passare alla finestra a aspettare che arrivavo io. Erano così i genitori prima, sì, erano molto apprensivi, poi c'era una cosa che mio padre alle 8 ci voleva tutti a casa quando lui tornava dal lavoro, si lavava, ci mettevamo tutti a tavola. Antonella adesso non sarà diciamo contento di quello che sto dicendo, si recitava il rosario prima di mangiare e poi si mangiava tutti insieme e poi potevamo andare dove volevamo, però lui ci voleva tutti insieme a tavola. E così era babbo, allora di cena alle 8 proprio già, come stava iniziando il telegiornale, noi eravamo già seduti. Qualche volta che io abitavamo qui dove c'era la Piadone, in questa casa, nell'altra, sempre di fronte alla piazza. Beh, lo sai già che molte volte mi trattenevo 5 minuti in più riusciva e buscavo, schiavo, buscavo, perché era quella, era proprio l'educazione già, era già del subito nulla, usciva e due schiaffi e dentro, capito? No, a quell'ora era sacrosanta, era tutti a tavola a quell'ora lì, capito? Allora c'era la nonna, ma vivevamo sempre tutti assieme, il nonno, e capito? Eravamo una famiglia unica, capito? Non abitava di fronte, quindi e poi si hanno fatto le case grandi giù dove abitava il sobbavo, però prima eravamo anche quando eravamo nelle case nuove sempre assieme, perché gli altri figli di nonna, uno era carabiniere a Venezia e la e madrina era capito fuori che il marito era un altro carabiniere e così già, e quindi però scattava lo schiaffo subito quando diceva, mi diceva Gianni stavo già prendendo colpi. Avanti. Io già. Sai già che c'è un break. Sogno a tutti da Fantomas. Fantomas. Fantomas, buonasera e ben sentito. Barracuda da questa. Compagnia mia è di Gianni Doppio Room e Gianni Capri 2. Avanti Gianni Doppio. Ben sentito l'amico, buonasera. Non ho capito il nominativo. Mantova mi pare. Tomas. Mi hai sentito Fantomas, ma sa dove muovi? Ma mi si sono, Batman! Cazzo di vecchio! Fantomas, Batman, non capisco. Non capisco bene. Gentilmente ve lo vuoi ripetere senza problemi. Caccame. Fantomas! Tanto, ma se l'ho capito ma bene io. Ciao! Ciao! Stinozzo! Già, tanto, ma la niente! Divertendo ti stai, ascoltami da continuo. Buonasera, sì. Sì, già, stavo ascoltando e stavo convertendo dei film. Niente di che, riprendete però voi, sono in quell'X. Ciao a tutti! Chissà quanti momenti hai vissuto in quel racconto. Per quello ti ho lasciato continuare. Ma chi è questo Fantomas? Tomas, sono vecchio, dai. Non ho mai sentito, comunque buonasera. Vecchio CB allora? Molto vecchio. Ah, ecco, più intanto si fa sentire, fa piacere, dai. A te tocca, io togli qualcosa di divertente. Lo ascoltate, siccome ho attaccato tanto oggi, volevo sapere se c'è il vecchio Falcone ancora. No, negativo, Falcone è già anni che vive dalla sorella, perché la mamma è morta e quindi se la fa da solo, se la sorella gli ha detto tutto. Là, niente, gioco del calzino, vabbè. Fantomas. Sono il più vecchio, mi conto più di un qui. Fantomas. Eccolo qua, e gratino non c'è. Ma è Fantomas, perché io ti voglio bene. Fantomas, no l'altro è Flymer, Flymer si è mangiato, sei sura. No, questo è pure Flymer. Un pugno che fine ha fatto? Un pugno, Alessio. Altre merda, sempre in diarrea, ogni tanto già si fa sentire. In diarrea sempre. Purtroppo ho problemi di stomaco, sì, è così. Ma ogni tanto già si fa vivo, non ti preoccupare, già c'è sempre lui. Ho più sentito. Ma no, c'è, tranquillo. Così. Ma adesso ho fatto passare da casa, stiamo durando dalla macchina. Casa. Ah, c'è l'antenna, quindi c'è. C'ho una LEM, una vecchia LEM, ce l'ho da un TTVG, ce l'ho un 15 anni, mai revisionata. Ma la LEM, la Gran P LEM, quella con le radiali 275? Sì, sì, quella. È alta, non lo so, sono 5 metri, una cosa del genere, boh. È quella che ho avuto io. Io lo stesso l'ho avuta a casa di mamma, quella lì, e poi me l'avevo venduta, non l'ho mai buttata via, l'ho ripristinata, tutta quanta, l'ho pulita e l'ho rivenduta. Ma quella che c'era di Alimpetto Origine, io ce l'ho in garage conservata, nuova nuova, quella è. La Superlem comunque. E quella della Lem, sì, sì, sì. E la Viale sì, così c'ha. E adesso non mi ricordo se erano i vetrovisi da tutti o se la metà in vetrovisi e la metà in alluminio. Non me lo ricordo bene adesso, se gli stub erano... Ciao! Ciao! Erano due tipi di stub, capito? Come mai questa voglia oggi? Durare? Perché l'ho ritrovato, e tu adesso però ognuno ha ripassato tutto quanto, vedi se c'è qualcuno che mi ricordo. Ho capito cosa hai detto. Che l'ha ritrovato e ha detto esci che provo a vedere se c'è qualcuno. Lorenzo, ci siamo e dunque se vuoi entrare, meno male già c'è qualcuno, vai per fare una chiacchierata. Dunque, niente, stavamo proseguendo i discorsi di vecchi ricordi. E altre ce ne entrare già. Come le ricordate? Santo, ma io ti ricordo come nominativo. Io ti ricordo. Tu ti ricordi del vecchio doppio rum? No, non mi ricordo molto bene. No, ma io già ti ricordo però. E vabbè, comunque. Io sono anziano della frequenza, sono di 32-33 anni in frequenza. Allora sì. Quindi immaginati tu. E vabbè, stavo appunto ricordando, non so che età tu abbia, stavo ricordando appunto i vecchi tipi, cosa si andava a ballare, eccetera, eccetera. Ho 41 anni. E tu sei ancora giovane, tu. Ma magari sei andata anche tu a Scalarui a ballare, Lupo Club a Sorso, eccetera, eccetera. In quei posti lì dove solito frequentavano i giovani. Sì, mi ricordo bene. Kappa. E avventure, Antonè. Quando sono andato, allora, una volta ci mettiamo in testa di andare a Tempio al Carnevale. Al Carnevale eravamo alla sfilata e vabbè io ero sempre solito galletto, ho attaccato con questa tipa che era un bel carina, beh questa qua ci ha portato tutti a casa sua a mangiare e poi ha invitato le bugie, siamo andati tutti in greffa a ballare, che è stato un divertimento, poi ci siamo attaccate queste ragazze, solo che era troppo lontano, tipo, se no era anche una bella ragazza. E niente, poi siamo ritornati un'altra volta e abbiamo deciso di andarci mascherati. Stavamo vabbè andando per cercare a questa qua, perché un po' mi aveva preso di quella vita. E siamo andati da Giorgio al cinema Giorgio che per entrare c'erano praticamente i carabinieri che alzavano la serranda appena facevano passare due persone alla volta, tu immaginati la gente che c'era in fila. Io però non avevo vestito di carnevale, questa è che ho messo, dai fregatele, io mi vesto da indiano e tu ti vesti da Babbo Natale, questo mai fu il luogo Babbo Natale, ma fregatele, dai che fai colpo, ho detto vabbè. Siccome lui aveva un vestito di Babbo Natale che si aveva messo per fare pubblicità al negozio della sorella. E niente, mi vesto a Babbo Natale, un caldo, fratto, guarda, allucinante. Vabbè, invece attacca questa ragazza vestita da bambina monella, con le lentiggini, eccetera, eccetera, mi salta addosso e mi fa, Babbo Natale! È arrivato Babbo Natale, ma è sempre ritardo. E gli ho detto, e io faccio, sono in ritardo perché ho preso il treno. E loro ci mettevano la ridere. E poi questa qua, tutta la sera attaccata, togliti la maschera, ti voglio baciare, questo e quell'altro. Cattivo, ero sudato, casuale, non ne potevo più, alla fine mi sono sotto la maschera, questa qua ha preso. Io scappando per tutta... fischi un bel. E aspetta che ti ha la. Ok, io mi devo salutare signori che sono le 11, se non disturbo qui, non con la ricezione, perché ho le cuffie però, con la mia voce. Mi saluto cordialmente a Gianni e Antonello e a Fantoma, ti posso dire da una canzone di Van Graziani, io ti ricordo così, col tuo sorriso e i tuoi capelli fermi come il lago. Ok, vi saluto ragazzi, ci sentiamo domani, dai, che se no qui di solo c'è un boccione, e non mi sono abituato ancora a parlare piano. Di nuovo ti rimetto il cambiate, comunque sto scherzando, Fantomas, ben sentito la KP2 che super cordializza, passa il QRT, causa era parecchio piazzato dove non dovrebbe essere piazzato. Ok, Antonio, riprendi, ascolta il finalino e poi chiudo. Eia, Cappe, ci sentiamo alle prossime, buonanotte, nel caso ci sentiamo domani. Sì, ciao come. Ciao già, ciao Frank. Ricette soframodulate, volevo dire a Fantomat, niente, ma è tentativo di riprendere a modulare, sperando di sì. No, non penso, poi io non sto più qua, adesso sono venuto per le ferie, sto giù ad Anzio, vicino a Roma. Ah ecco, porca miseria, peccato, dai, perché sicuramente si è ben notato, dai, non c'è molta più affluenza come prima, ci siamo noi che giustamente la sosteniamo, la 27, ecco. Stiamo cercando un po' di tirarla su, tutto lì. Sai, una persona in più, perché no? Fa più che piacere. Antonè, come va? Ottimamente, adesso va bene. Questo è il microfono normale. Ma sicuramente stanno della batteria, da un sacco di fischi allucinanti, sino all'ultima croce è sempre di sottofondo. Però adesso va benissimo. E questo qui è il microfono della Midland, quello, diciamo, quello che è di normale, dai, com'è la radio, buona? Sì, non è, diciamo, magari, diciamo, la tua timbrica, no? Modo di modulare, leggermente amplificata, e con l'eco, così sei liscio, tranquillo, normale, una semplice modulazione normale. Aspetta che lo diamo, ecco, andate a dormire. Buonasera Giulio. Gigante lezione, buonasera Giulio. E a colpo te ne sei? Ciao, ciao già, no, stavo giocando col computer giù. Non pensavo che ce l'avate voi. Eia, così bene il battone. È un po' barattoloso, ripetitivo, no, non è la tua modulazione, Giano. Giulio, c'è anche il Fantomat, non so se lo colpi. Sì, l'ho appena sentito, sì. Quello è un nuovo CB. Avanti, Fantomat. Non c'è più, si è spaventato. Oh no, ci sono. Ehi, ti ho rilanciato a Giulio, che è entrato adesso. Sono Giulio. Ciao, Fantomat. Sei nuovo? Nuovo? Vabbè, io ho modulato molti anni fa, adesso sono nuovo, dai. Già è un nome che mi ricorda qualcuno di tanti anni fa, infatti. Ma adesso, come hai un accento continentale hai tu? Oh no, l'ho lasciato, il gruppo sta via. Ma non sei qui in Sardegna tu? Non hai la tonalità del sardo? Che ce l'ho, dai. No, non ce l'hai, assolutamente. Ce l'hai, diciamo, un po' confusa. Forse, non so, forse del Lazio, non lo so. Probabilmente qualcosa che si avvicina al romano, non te lo so dire. Però non è, diciamo così, la lingua sarda, vera, quella che sentiamo noi. Ok, allora dovrei parlare. Oh, che sta a dì? Non nemmeno così si può dire, perché non è un modo di parlare sardo quello. Antonio, parla di tu in sardo, che tu così almeno impara di nuovo. Però bisogna zaide, claro, giù, se lo comprende. Lo comprende sul sardo, sì, vediamo che sì. Io lo comprendo. Appunto, se lo comprende, allora già è sardo, non ti preoccupare. Niente, scusate, io vi devo lasciare perché sono le 11:10, mi devo preparare per stanotte, dai. Vi auguro un buon proseguimento di serata, ci sentiamo alle prossime, e comunque salutone giustamente ha fatto per la primiera. Speriamo che da quel poco che rimane qui in Sardegna lui si l'apparato per farci compagnia, dai. Buon proseguimento e buonanotte a tutti. Ciao Antonio, buon lavoro, dai, ci sentiamo. Se fossi stato solo a casa sarei venuto a farti compagnia, ma c'è Barcolino e quindi non fa, dai, mia moglie è andata da un'amica qua di fronte e questa ragazza di fronte che abita qua e quindi sono solo soletto. E va bene, già non ti preoccupare, già capita un'altra occasione. Va bene, buon proseguimento, divertitevi. Allora, tanto lei. Ciao, no, grazie, fatti sentire. Ehi. Ciao, oggi. Ehi. Ma, Natalino, contro 40 sta dando. Cosa? Natalino, 440 sta dando, nulla sai. Ciò che l'ha già venduta a Capri 2. Ah, no, perché l'ho visto qua. Lo stavo a vendere. Ah? L'ho visto subito. Stavo girando a vedere cosa c'erano di novità. 140 ce ne sono. Mi sono soffermato qua e non lo so. Ma non credo. Magari. Ciao Antonio, ancora ci sei? Ok. Antonio, ancora ci sei? Ciao Giulio, scusa. No, ha già chiuso Antonio. Le volevo chiedere appunto di se ha fatto affari ieri, perché lui era interessato al 140. Ti rispondo io. No, non l'ha fatto. Dice che c'è un altro apparecchio ricevitore che gli può interessare, che va a vedere lui. La stessa persona, c'è anche un ricevitore in vendita. Quindi ha detto che poi ha paura di disturbare con quegli apparecchi tutto quanto, che se è tranquillo, non vuole droni e cose. Ha detto che si prende il ricevitore forse. Ah, ho capito, sì. Va bene così. Allora, Fantomas, mi sembra che così era il nominativo tuo, del nuovo, della persona che è entrata stasera, mi sembra per la prima volta, perché io dopo 40 anni non l'ho mai ascoltato. Certo. Giulio, ma tu sei giovane, cosa... E quello è il problema, allora. È per quello che non l'ho ascoltato. Io questo Fantomas me lo ricordo, il nominativo. Non mi ricordo a lui, ma il nominativo sì. Oggi, tu stavi ricordando anni fa delle cose che facevate voi, no? Adesso sentendo a Fantomas, però questo qua mi sembra che si chiamava Fantasma, o una cosa del genere. Avevamo fatto un agguato io e Celentano anni fa, avevamo fatto l'appuntamento tramite una grinchella e mi sono fatto passare per il marito io. Sul chiarito l'ha pigliato. Vabbè, dai, ascolta, già ce n'è uno, però Divannino è. Ah, Divannino di Sosso, cos'è, 140? Sì. 140, MC60 e se vuoi fare le prove, falle. Vabbè, signori, dai, io ne approfitto che ho il bimbo sul fuoco e il latte che piange, se no qua non riesco a andare avanti. Pagato. Beh, il secondo arrivato bene si sta comportando. Sì, è il primo che gli ha rotto un po' le scatole. Poi vabbè, ci si è passato più di me. Mamma mia, non me lo ricordare. Io sono stato 13 mesi senza dormire di notte. No, vabbè, magari è così, succede così, un po' di, che ne so, magari un po' di gelosia, un po' di... si sente un po' staccato, ma non lo è, perché meno male sono molto presente anche su di lui, quindi però lo vuole far impazzire. adesso è un momento che magari è un po' critico all'inizio. Io mi ricordo mio nipote che gli diceva al fratellino quando è nata la sorella: dai, cresci in fretta che la facciamo a beffa questa qui. Ah no, va bene, dai, vi saluto, Giulio, ti lascio ormai, che aspetto il giro dei saluti e poi va andando, dai, riprendi, ciao a tutti, buon proseguo, buon questo, alle prossime, dai. Ok, ciao a te, ciao, buonanotte, fate sentire però che tu sei proprio sparito dalla frequenza. fate sentire tanto in tanto, cerchiamo di dire, per risolverla, questo mortorio di frequenza. Va bene, dai, ciao, buonanotte, ci sentiamo. Avanti, Fantoma. Se mi fa piacere anche ascoltare, quindi non sono presente lo stesso. Vabbè, ma noi abbiamo bisogno di compagnia, capito? Vabbè, d'accordo, ti. Comunque, già lo sai che quando vuoi sei sempre ben accetto. Ci sentiamo, ciao ciao, buonanotte, avanti già. Ehi, ciao Tino, buonanotte, ci sentiamo, siamo sovramodulati probabilmente. Cava, cava. Buona continuazione. Ho detto giù, stasera ho acceso alle 5, non c'era nessuno. Non te lo so dire perché non c'ero io. Non c'ero già, perché non c'ero, no. Io sono entrato che saranno state le 7:30, le 8, meno un quarto, di preciso adesso non lo so. E chi c'era? Ah, Gianni c'era, Gianni di Mulos. E poi chi c'era? Ah, e Pinuccio da Budusò. Niente di più. Ma il tempo di salutarli, poi ho chiuso e basta. No, io anche al ritorno acceso alle 7:30, non c'era nessuno. Ho detto, vabbè, mi accendo la radio e buonanotte. Acceso la radio, mi ho ascoltato la musica, un programma musicale e via. Non c'è problema, io già trovo sempre la cosa sostitutiva. Vabbè, certo, c'è sempre un'alternativa in tutte le cose. In una sola cosa non c'è l'alternativa, ma in tutto il resto sì. Beh, in quella non c'è rimedio, Oh Giulio! Limiti! Ora che forse tu sei più a contatto di me, ma Antonio che fine ha fatto? Riserva? Ma io Antonio Riserva l'avevo sentito diverso tempo fa, aveva avuto un incidente, si aveva rotto il... adesso non mi ricordo se è il malleolo, insomma qualcosa nel piede, è stato un bel po' anche in ospedale perché non poteva fare. Ah, il calcagno si aveva rotto, non so, forse lavorando, non te lo so dire, e poi non l'ho più visto. Ma anche io, sì, l'ho saputo anche io quella storia lì, ma poi appunto deve essere che era appena successa la cosa, poi l'ho perso i contatti, ma proprio là, nel caso degli di far sentire ogni tanto, già fa sempre piacere, già c'era il mio numero. Ok, e domani ho il telefono, d'accordo, ti. Se per caso lo senti tu, digli che abbiamo nostalgia di sentire la frequenza, ma penso che non abbia più niente per gli apparati. Ah, non lo so, io gli avevo dato il Q5, non so neanche se era ancora il mio quello, se c'era lui. Io poi ho lasciato un po' perdere anche, perché pensavo una cosa una cosa all'altra, quindi avevo anche l'Aran 48, mi sembra. Ma per quanto ne so io, lui l'ultimo che aveva era il Magnum. Aveva il Magno S9, l'aveva dato il fratello, l'aveva dato, e penso che il fratello se l'abbia venduto ugualmente. Non te lo so dire, Oti. Comunque domani vedo il telefono. Poi, casomai senti frequenza, ti farò sapere. Va bene, dai. Ci si riascolta. Ciao, ciao, buonanotte. Ah, ciao, ciao. Ciao, ti, ciao, buonanotte. Vai già. Ehi, c'era anche il Fantomas avanti, Fantomas, sì. Deve aver chiuso quello lì. Cava, cava. Ma io già me lo ricordo. Il nominativo Fantomas me lo ricordo, però non mi ricordo chi era. Ma anch'io me lo ricordo come nominativo. Però non è lui di sicuro, perché dalla voce è giovane questa. Io sto parlando di Fantomas di 30 anni fa come minimo. Lui è giovane, sicché dalla voce, perlomeno. Poi la pronuncia non è scorso, la voce è un'altra, a timbrica. Capito, Olia? Lui ha 41 anni. 41 anni, ma può darsi allora, può essere che possa essere lui, che lo sa, non lo so. Comunque, se lui ha voglia di modulare, noi già siamo qua. Gappa, infatti. Si parlava un po' di revival, Giulio, stasera. Con chi? Con Antonello? Con Antonello e con KP2. Si parlava di quando andavamo a ballare, eccetera, eccetera, quando c'erano le salette. Altri tempi, già. Ormai tutte quelle cose sono sparite, non ci sono più. Io, Giulio, mi ricordo, in una traversa di Corso Trinità c'era una sala che era enorme, si scendeva giù, era tutto a vetrate, ma bella però, c'era il guardaroba, il gigo, la cabina, tutto quanto, proprio fatta bene, ed era sempre zeppa di gente, piena di inverosimili. Dove hai detto? Nella traversa di Corso Trinità, cosa hai detto? Scappa. Non lo so già. In una traversa di via Turretana, sì, cioè di via La Marmora, sì, San Sisto lì, quella zona lì, quella sì, c'era una cantina lì, si andava lì. C'erano parecchi, c'era via Grazia Deledda, lo Zumbrini, dopo c'era via Giabellina, c'era un'altra, poi c'era una via Oriani, che era enorme lo stesso, quella di Pio Oriani, che era proprio sotto i palazzini, la palazzina di Sini in fondo, lì c'era una discoteca, una sala ma grande, fatta bene, con le poltrone, con tutto, di gente che va assurdi. Poi io ne ho frequentato parecchie perché noi ce l'avevamo in vicolo San Leonardo, che praticamente quel vicolo, non so se ce l'è presente, che risulta che scende per andare in Piazza Tola, lì dove c'è il negozio di animali, là. Ho capito, sì, ho capito, via, che vi era quando non me lo ricordo. Sì, no, beh, c'erano tanti altri, però nelle viuzze di Sassari Vecchio, proprio nei pressi lì di Santa Polinare, San Sisto, in via Muraglie ce n'era una, poi ce n'era anche via Casso, insomma, entro tutto quel secondario lì ce n'erano diverse, ce n'erano. Sì, ce n'erano tante, ma quelle che frequentavo io erano, diciamo, 4-5, dai, dove andavo io, perché noi ci avevamo la nostra volta la saletta, e invitavamo gente e cose, poi magari ci diceva dai venite nella nostra domenica che facciamo per dire una festa, roba del genere, e andavamo là, capito? Quindi ci scambiavamo, diciamo, anche i favori. Sì, si facevano con le pezzucciole così, ognuno di noi si portava la gazzosa o la lanciata o qualcuno anche la birra. La beveva naturalmente. E vabbè, altri tempi già, tempi da ventenni. Noi ce l'avevano distrutta perché non abbiamo fatto entrare due delinquenti che conoscevamo, famosi. Gli abbiamo detto che era, diciamo, solo per la nostra greffa, che lo facciamo entrare stile, eccetera, eccetera. Ah, lui sì, e vabbè, ce ne siamo andati. Il giorno dopo siamo tornati e c'era tutto quanto distrutto, c'erano defecato tutto, i muri, hanno rubato lo stereo con il cervello per le luci, le lampadine, tutto quanto. Sì, in via, come si chiama, in via San Donato, non in via San Donato, in via San Sisto l'avevano addirittura incendiato, e poi immaginare, ma fortunatamente ce ne siamo accorti subito e dunque non è successo niente di grave, capito? Perché lì c'era qualcuno che accendeva veramente, di morbido. Ma noi avevamo in greffa muraturi, tappezzini, tu devi vedere come l'hanno fatta. Allora, praticamente questa che avevamo noi apparteneva al principale di questo amico nostro di greffa che vendeva in Piazza Tola la biancheria. E la usava come ripostiglio prima, poi ha cambiato magazzino, quella lì ce l'aveva sempre, però quelli del palazzo erano riusciti a aprire la porta e ci mettevano quello che volevano loro. Allora lui ha detto: se voi ve la prendete non vi faccio pagare né affitto né nulla, me la pulite dalla roba che c'è, la vi date, diciamo, una rinfrescata e vi fate quello che dovete fare. La luce naturalmente me la pagate voi, noi ci siamo stati, e il mio amico, quello muratore, ha buscato quei cartoni bianchi, gli ha fatto, gli ha incassato delle travi eccetera eccetera, poi è stato rivestito da quello tappeto, ha rivestito tutto in moquette, ha fatto le spalliere, tutto quanto fatto bene, la gabbina di digit che ha fatto bene, tutta fatta a calci scuso, perché era tutta d'arcate questa cantina, ma non sa quanto è uscita bene. Sì, e quella, quella che c'era a Santa Polina era la poesia d'arcate, era anche quella, era bella, poi era sotto, no? Sì, che tu mettevi musica a tutto volume e fuori non si sentiva niente o quasi niente, sì, che non disturbava, potevi stare anche fino a tardi, non era un problema, capito? Però c'era freddo, ma ha detto, cioè d'inverno c'era freddo, perché era tutte canzoni, senza intono, senza niente. Sì, avevamo messo dei corsi, dei cartoni, di uova, no? Per isolare, però il freddo c'era sempre. E anche noi, per disonorizzare pure. Cartoni di uova li mettevamo più per disonorizzare, per sentirsi rumori esterni, in esterno. E bei tempi, là, ci accontentavamo di poco. Andavamo, quando non sapevamo cosa fare, andavamo lì a ballare, oppure andavamo in discoteca, oppure andavamo al cinema, in pizzeria, dipende, quello che diceva la Grefa, noi eravamo una quarantina di persone, mi Grefa, eravamo bene, tra ragazze e ragazze. Beh, ok, noi, io, con tutta la Grefa della palestra, tutti i corridori, ognuno con la sua pivella, non sai come funzionava, e poi c'erano anche altre società che si aggregavano, sempre gli atleti, ma succedeva un macello, succedeva, perché c'era tanta di quella confusione, alla fine si finiva più che altro per stare lì a chiacchierare, più che altro, perché c'era troppa gente, capito? Magari il posto era piccolo, e allora dovevi smettere. Infatti, Giulio, come lasciati questa radio? Si è messo un microfono normale perché si è scaricata la batteria nell'altro. Io ti sento benissimo, ti sto ascoltando in cuffia, ma ti sento benissimo. Ti stavo dicendo che erano bei tempi, ci si accontentava di poco, ci si divertiva lo stesso, non si pagavano grosse cifre per andare a ballare, anche se qualche volta si faceva, ma quando c'eravamo le salette si girava più che altro per le salette. Beh, certo. Certamente. Beh, ad esempio già, oggi è tutto un altro discorso, no? Si fanno un'altra vita si fa. Prima era una vita praticamente perché non c'erano possibilità, non c'era niente, allora si andava lì perché era l'unico posto dove potevi spendere niente praticamente. Tanto non ce n'erano, allora soldi, sì, che quella potevi spendere. Allora io dico una cosa, noi avevamo un nostro amico che era un tecnico, ed era un cervellone lui, ha costruito questo cervello elettronico dentro una scatola di dattili, ce l'hai presente quelle scatole di dattili di legno grandi dove contengono i dattili? Dentro una di quelle scatole ha fatto tutto il congegno e poi praticamente l'ha verniciata e le ha messo tutti gli interruttori fuori. Allora comandava 100 luci questo cervello che ha fatto da 100 watt l'una. Sì, aspetta un attimo che sto attaccando bene la chiesa. Volevo chiedere anche alla radio, così come adesso è disturbata dalla saturazione. Sì. È una sacco, va. Vabbè. Sì, ma prima era così già, ci si divertiva con niente. Anche perché non c'erano i mesi, allora non è che potevi prendere tanto. Ma dico, non è che ha preso, non è che si è perso l'anima, ha preso una scatola a fusaro per farlo, no. dentro la scatola di datteri e andava alla grande, c'avevamo luci psichedeliche, c'avevamo stromboflash, tutto quanto. Fatta tutta a livello proprio. Dicono sì, queste cose qui sì, con le luci colorate, con le lampadine colorate più che altro, non è che erano le luci, la lampadina colorata e allora ti dava la luce, ti dava un certo effetto, ma diventava profili volanti, anche pericolosi così, cose fatte dai ragazzi erano, capito? No, no, le nostre le erano fatte un po' meglio perché c'era Pino e... faceva tecnico, quindi aveva fatto tutto a regola d'arte, con canalette, con cose, era molto bravo. E anche DJ era lui, cioè avevamo i piatti della Technis, tutto l'impianto fatto bene, belle casse, tutto distrutto già, perché noi avevamo fatto entrare due teppisti che si conoscevano di fama, non li avevamo fatti entrare, ci hanno distrutto tutto. Tu pensi che io avevo fatto delle casse per un ragazzo, per un amico di mio cognato, e mi aveva dato in cambio un baracchino a sei canali, il Poli era, il Poli a sei canali. Avevo fatto le casse per gli altoparlanti, e da allora che avevo iniziato io l'attività al baracchino. Ah, il Poli a sei canali, quello che aveva la ricezione dal microfono. Che aveva il microfono scavato, me lo ricordo. E quello, e mi ricordo dava 5,8 watt dava. Tu pensi che una volta l'avevo confrontato con il Costat 35B parabolare di Costanzo ora zero, a Porto Torso. Allora c'era? Ma come si chiama? Quella marito e moglie che erano a Porto Torre sempre. Non me lo ricordo. Insomma ci hanno dato il controllo loro ci hanno dato il controllo e io con questo baracchinetto da 4 soldi avevo superato un bel apparecchio che era il costo di 35 valvolane, puoi immaginare. Sarà satellite, vai più di gravina. No, quella che parlava in continentale, che aveva la pronuncia continentale, ma non me lo ricordo come si chiama. Non me lo ricordo. E comunque a Porto si veniva un bel prima. Tanti, a voglia. Ma tanti è mai. O qualcuno è morto anche, come Titano ad esempio, e qualche altro anche, per quanto ne so io. Tutti moriamo giù, prima o poi ne dovevo andare tutti, ci saranno i cibi nuovi che di noi diranno, sono morti, speriamo più tardi possibile. Beh certo, porca miseria che non mi ricordo come si chiamava quello, marito e moglie erano, che morivano tutti e due, mica lì aveva una voce molto potente e aveva la pronuncia, adesso non so se era napoletano o cosa era, non me lo ricordo. Napoletano, se non è, sai come si chiama lui, lui cosa faceva, prendeva la bicicletta? No, non credo, ma forse lavorava la SIR. Dicevo presente, mi ricordo Angelo Asse, di produttore, se andava spesso. Tanti toccai, però toccai qualche annetto fa si era riaffacciato, quando era andato in pensione si era riaffacciato in frequenza e poi è sparito di nuovo. Toccai, poi c'era Mario Montelva. Tanti, Carciofo non me lo ammetto. Poi ce n'erano un bel di produttori, se me ne ricordo tantissimi. Se li risento magari non li riconosco, però i nominativi me li ricordo. Certo, poi c'era quell'altro che se era andato in continente a lavorare, parlavano, anche la moglie parlava, non me li ricordo più ormai, RSI c'era, Danilo, e ce n'erano tanti. Sì, RSI Danilo me li ricordo. E anche qualche cosa, anche Tittano era andato in continente per un periodo, infatti poi quando è ritornato Carlo Tittano mi ha detto già vai da come ti andai di Subaracchino, e stava uscendo, stava funzionando male, adesso mi ricordo se era 104 o 440, e usciva tutto quanto saturo, tutto male, cose, tu fallo scaldare un po' caro. L'ha fatto scaldare e dopo un paio di giorni l'ho risentito e ci va bene bene. Sì, quando, come si chiamava quello che era finanziere, mi sembra che era, che la buona voglia al porto? Ce l'ho presente. E c'era cosa, quello con i baffi, ma guarda ci sono andato in pensione, Fernando. C'era sulla punta della lingua come si chiamavano quelli due che parlavano in continentale, perlomeno lì parlava continentale, e non me lo ricordo, poi per nome viene. Ce lo dice Giampaolo se lo ricordo. Vabbè, sicuramente. Sicuramente, guarda. Guarda che una volta in un incidente stradale sulla strada per Cacassardo, lì si era fermata, faceva chiamata e non era riuscita a entrare perché le chiamate dell'ambulanza, non riuscivo a entrare per questa perché c'era un macello, c'erano tante quelle portanti e non riuscivo a entrare. Non ce l'ho presente. Magari l'ho sentita, ma non ce l'ho presente in questo momento. E poi c'era Biancaneve, qua Sassari, che parlava spesso, c'era Marina. Insomma c'era la rotta della mattina, te la ricordi, grazie da Marina, si trovava tutta la mattina. Sì, di Marina ce n'erano due, c'era quella che lavorava alla Camera di Commercio e ce n'era un'altra che abitava a parte Santa Polinare. Marina la moglie di Piero Draghi. Esatto, quella è Santa Polinare, ma l'altra, quell'altra è morta tra l'altro. Oh. E da anni è morta, l'altra, quella che lavorava alla Camera di Commercio, da anni è morta. Vagare. La cosa, che fine ha fatto la maestra di scuola, quella di Montefurro? La maestra di scuola, ricordami come si chiamava. La maestra poco fa, quella che era nella sedia. Ah, Biancaneve, si dice. Fiocco di neve, cioè. Non era di Montefurro, no? Era la strada di Sosa abitava. E Montefurro sempre diceva lì che abitava Montefurro. Sì, Biancaneve, Fiocco di Neve, sì. E anche Biancaneve si è fatta chiamare. Ogni tanto cambiava. Infatti, era abitava Rogulinto. E subito dopo la seconda curva mi sembra. Prima di prendere la salita, insomma, fatta la prima discesa, prima di prendere la prima salita. Sì, lì abitava. Quello lì quando stava bene, non durava, e poi c'erano momenti che non ce la faceva. Chissà che fine ha fatto, se è ancora vivo. E chi lo sa? Io ogni tanto vedo a coso, a Michel, Angelo Michel. Anche perché gli ho fatto un lavoro da poco. Ma io non lo conosco. Se ho il nominativo, conosco il nominativo, ma lui non lo conosco. Ho capito. Vabbè, mi hai conosciuto. No, io sì. È appassionatissimo di macchine d'epoca, soprattutto. Infatti mi sembra di hanno 3 o 4. Tutte rimesse a nuovo, tutte in ordine, tutte funzionanti. Sarà quello che c'ha la del 7 grado. Proprio quello, sì, proprio quello lì, che poi ha anche la MG, e poi ha anche la Mini Minor, e poi cosa? Mi sembra che ha anche una Panda antica, se ricordo bene, insomma, ne ha 4-5 di queste macchine. Ecco perché adesso ho capito, il viso non era nuovo. E quella Delta integrale rossa, c'era sempre quella. Sì, la usa per andare alla, siccome lui è un coso, come si chiama, adesso non so se è funzionario o cos'è, o se cronometrista, o sono il giudice di gara, non so, qualcosa del genere, insomma, è impregolato nell'automobilismo, capito? Quando fanno i rally, eccetera. Ha fatto la macchina di servizio, là. Sì, e da poco ha sistemato una MG, c'era che ha 54 anni con la macchina. Questa macchina aveva addirittura il telaio piegato, lui ha escogitato il sistema, se l'ha fatto tutto da solo, ha montato motori, ha montato tutta la macchina completamente, non ha fatto nulla, ha fatto lasciato solo la scopa. Bene, rimontata, ha tomato attore, devi vedere come questa macchina. Ha fatto un motore, ha fatto tutto, si è fatto arrivare tutti i pezzi che gli servivano dall'Inghilterra, perché è una macchina inglese, no? E come ci tiene, caspita, ci tiene, tanta pezzeria nuova, impianto elettrico nuovo, tutto nuovo, tutto indistintamente, da là lo vedo. Spritta, padre, questo è quello che bulle la mezzanotte. Ah. Come tanto un casino, questo è lei. Non mi è stato appena Dino, che di solito parliamo questa domanda. Mi ho sentito, e te sento salutare a Giulio, niente di più, capito? Poi guarda, mi sta guardando il film Cyborg, quello Terminator. Ho capito. Allora io ti lascio con Gianni, ti lascio. Così chiacchierate, io adesso devo chiudere. Se no qua non si vede la televisione. Se parlo si annibbia la televisione. No, fai pure io, anch'io, a me adesso. Sono andato a saltarvi, adesso c'è. Li ho sentito così per caso, adesso vi saluto. Ne si più capito. No, non rimango in frequenza. Ciao Gianni, buonanotte, adesso vado via anche io intanto. Ciao Giulio, buonanotte anche a te. E buona domenica. A tutti e due. Ciao ciao ciao. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, ciao, ciao, buonanotte. Ma sui 50 di Gianni? Gianni di Iteri, sui 50 di? Allora, stavo cercando Pino, ma non mi ha risposto, evidentemente ero su 50, ma non parlando perché non risponde perché si era addormentato. No, forse sta qui a parlare, perché ha parlato stasera, ha parlato verso le 7, una cosa così, 7 e mezzo, sono state, non so, è preciso. E so che c'è stato un bel po' parlando con Gianni di Muros, si sarà stancato e allora ha chiuso. Sicuramente. No, ma Roma, appuntamento, ogni tanto entriamo, capito? No, se ci sentiamo con la frequenza lì, a 525. Chiacchieriamo e poi niente, ce l'abbiamo a letto. Adesso provo a chiamarlo, poi lo stesso chiuderò perché, ripeto, sto guardando Cyborg, quindi. Ok. La bugia, dai, ti saluto per tardi, dai. Ciao, buonanotte, buonanotte. Ciao Gianni più lui, ciao Gianni Giaguaro. Ok, ci sentiamo, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao.